durante il Medioevo, origine, sviluppo e crisi nelle fonti e nel dibattito storiografico. Grazie. Devo precisare perché ho inserito, fra virgolette, quel diversa. È diversa non già perché tale non sia, quando non voglia farsi un discorso di sintesi o generico, la storia vista d'appresso di ogni singola comunità cittadina italiana o europea e dei ceti che nel Medioevo la compongono, per l'ovvia ragione che molteplici sono le specificazioni che la città assume dalla particolare morfologia del suo territorio, dalla tipologia dell'impianto urbanistico e da tutto il complesso dei fattori che entrano in gioco operando su un substrato volta a volta diverso per la costituzione di quel sistema di correlazioni e di interdipendenze che esprimono in forme singolari la vitalità. Diversa, al limite, può dirsi anche, per la lettura sempre nuova che se ne propone nella successione dei tempi storiografici. Dico invece diversa la storia della società cittadina dell'Italia meridionale, perché pur avendo i centri urbani del sud una origine analoga a quelli del resto dell'Italia alto medievale, essi si vennero successivamente sempre più differenziando e distinguendo per una serie di circostanze storiche, fra le quali preminenti il limite che la monarchia feudale fondata dai Normanni necessariamente oppose in un ambiente dove erano riconoscibili più che le premesse di forme di autogoverno, non permise di sviluppare una costituzione comunale dotata di autonomia non solo amministrativa ma politica, e inoltre la conseguente mortificazione dello spirito associativo col divieto di costituire corporazioni di arti, la soppressione degli usi civici nelle terre dei compaspa suburbani, ridotte dai feudatari in terre recintate o defense, con la conseguente rottura della integrazione fra città e campagna, l'arroganza baronale che provoca la nascita di un banditismo che diventa endemico per secoli, la totale assenza del lievito delle eresie popolari che provocano, come è noto, la crescita di una coscienza municipale e, non ultima, e pur essa contemporanea alla formazione del regno, la penetrazione e la conquista dei mercati meridionali da parte delle emergenti forze economiche dei comuni italiani del nord e del centro. Questi sono soltanto alcuni dei problemi entrati nel dibattito storiografico dall'inizio di questo secolo, almeno da quando l'interesse per la storia del Mezzogiorno estese la sua riflessione non più soltanto a cominciare dall'undicesimo secolo, come aveva fatto il De Blasis, suggestionato dal mito risorgimentale unitario del grande stato normanno, ma recuperando anche i secoli dal VI all'XI, da lui sbrigativamente definiti di torbida anarchia. Ma neppure il Gay, che nel 1903 aveva rivolto i suoi studi al dominio bizantino in Calabria, Puglia e Lucania, e lo Schipa, che nel 1923 propose la sintesi dei suoi precedenti lavori sul Ducato di Napoli e Principato di Salerno, seppero sottrarsi, il prima, il Gay, alla difesa, fra virgolette, della grecità meridionale e della civiltà bizantina, definita dalla Mari e dal De Blasis simbolo di ignavia, di corruzione e di malgoverno. Il secondo, lo Schipa, ai miti nazionalistici, facendo di Napoli medievale la custode unica della civiltà romana e degli istituti nazionali, con scarsa però attenzione alla vita sociale ed economica dei centri urbani, seguiti in questo anche dallo Chalandon, che aveva fatte sue le conclusioni del Poupardin sull'Italia meridionale pre-normanna, considerata come un periodo di sterile stillicidio di energie, di contrasti interni, di agenti disturbitori che si risolvevano, e gli dice, in continue lotte e guerre interne senza interesse e senza grandezza. Tuttavia, le tematiche che si sono maggiormente proposte alla discussione degli storici in questo secolo si accentrano intorno a tre problemi principali. Anzitutto, quello di una pretesa ininterrotta continuità della vita cittadina dall'età classica al Medioevo nell'Italia meridionale. La vecchia tesi enunciata da Alphonse Savigny, si pronuncia così? Sì, ma è un astanziano, qualcuno pronuncia la tedesca. Dunque, del von Savigny, della persistenza, la tesi dunque del Savigny, della persistenza in Italia del municipio romano con i suoi ordinamenti sopravvissuti nel comune, già respinta da Karl Hegel in favore dell'apporto rilevante delle istituzioni dei popoli germanici. Questa tesi è stata, come è noto, ripresa limitatamente alle città del sud e alla loro attività economica come una eccezione in un contesto europeo dove l'attività municipale si è estinta molto rapidamente, eccetto che nell'Italia meridionale, è il Pirenne che dice questo. Ma questa poco documentata affermazione del Pirenne non regge perché, come si vedrà, anche nel Mezzogiorno d'Italia la struttura dell'antico sistema urbano risulta profondamente sconvolto e si trasforma in una peculiare e originale versione messa in luce dagli studi più recenti. Un secondo problema consegue alla posizione assunta da alcuni storici locali che, attratti dalla suggestione della storiografia sulla origine e lo svolgimento del comune nell'alta e media Italia, nello studio dello Heinemann e del Davidson, dello Arias, del Gabotto, del Salvemini e del Volpe, per fare i nomi maggiori, furono spinti ad assimilare fra loro istituzioni di genesi diversa e a forzare il significato di talune analogie fra ambienti lontani. Ma la tesi di Achille Dina, seguita poi dal Pochettino sul cosiddetto Comune di Benevento del 1000, connessa alla Communitas prima e alla Coniuratio seconda, di cui fanno cenno gli Annales Beneventani agli anni 1015 e 1041, deformandone il significato nel senso di una tendenza associativa di classi inferiori contro il potere signorile è stata ridotta a giusta proporzione dal Pontieri, che l'ha ricollegata alle rivolte di palazzo promosse dalla aristocrazia militare longobarda nel tentativo di controllare o limitare la dinastia dominante nel Principato. A sua volta, il primato rispetto al nord rivendicato nella Costituzione anticipata del Comune Pugliese da Francesco Carabellese, che fece proprio la tesi dello Heinemann e del Davidson, secondo la quale la giurisdizione consolare si sarebbe sviluppata dal potere arbitrale dei boni homines, fu già a suo tempo contestata dal Salvemini e di recente sembra del tutto compromessa, perché laddove anche il giurista Calasso, vedeva in essi, nei boni homines, la base solida per la ricostruzione del tessuto cittadino, operando mandate et voluntate populi, il Galasso esclude che costituissero una classe sociale e sulla base degli studi del Giardina, un siciliano, uno storico del diritto siciliano, è deciso nell'affermare la loro scarsa importanza per lo sviluppo delle autonomie municipali e che per tutto il Medioevo boni homines erano considerati e definiti coloro che o in funzione di testi o in funzione di arbitri o in funzione di esperti erano chiamati a intervenire nei giudizi. Il terzo e più complesso problema, il nodo anzi della questione, che presuppone la premessa di un'attività piuttosto intensa di un'organizzazione autonoma nella vita sociale ed economica delle città meridionali in età prenormanna, si rivolge alla ricerca delle ragioni che determineranno o che determinarono la crisi sopraggiunta nel corso del secolo XII con la fondazione del Regno, che unificando il sistema degli stati preesistenti e introducendo il controllo delle amministrazioni cittadine ne avrebbe mortificato o arrestato lo sviluppo avviato verso una costituzione comunale. Furono due economisti, lo Hyde e lo Schaube, che fra il 1878 e il 1906 accreditarono la tesi secondo la quale, finita l'indipendenza politica dell'articolato e plurimo sistema politico degli stati meridionali, anche la vita economica e lo spirito di iniziativa delle città marittime della costa pugliese e campana ne risultarono soffocati. E se la fotta alle Normande diventa un motivo ricorrente nella storiografia dei meridionale, almeno fino al Berza, uno storico rumeno, che la ritenne valido per la fine o la crisi di Amalfi. Pontieri assolve i Normanni e fa responsabile della regressione socio-economica del sud la forte espansione mediterranea di Pisa e di Genova, con ardite imprese anti-islamiche dietro la spinta delle iniziative mercantili dei comuni della Toscana e della Lombardia. Per il giurista Calasso, solo in parte è da accettare la testimonianza di Romualdo Salernitano, secondo il quale Ruggero malas consuetudines de medio abstulit, perché il re normanno pur sottoponendo a controllo le amministrazioni cittadine, in molte situazioni occasionali fu corrivo a concedere libertates e franchigie, mentre con Guglielmo II le consuetudini locali furono ripristinate. Solo nella legislazione, sempre secondo il Calasso, si abolirono le magistrature cittadine create ex collazione populi, con il conseguente annullamento delle autonomie locali. Per Romolo Caggese, la crisi istituzionale delle città si consuma in periodo angioino, con la definitiva affermazione della università, che serviva ai fini fiscali dello Stato, e con il distacco della dinastia che sarebbe rimasto, sempre secondo il Caggese, fondamentalmente estranea al paese. Il Galasso, da ultimo, pur riconoscendo che i normanni imprimono una mutata direzione al corso storico e che la feudalizzazione del regno finì per spezzare l'organica associazione fra città e campagna, diluisce la questione nei tempi lunghi, seguendo, come mi par giusto, il percorso della trasformazione istituzionale e sociale del comune meridionale. Una proposta metodologica per lo studio della ricomposizione del tessuto urbano della Campania, che può estendersi peraltro a tutta l'Italia meridionale, è stata di recente avanzata da Paolo De Logu, il promotore del Centro di Archeologia Medievale della mia università, che consente di individuare le costituenti essenziali del concetto di città e del loro evolversi, sfuggendo a un tempo ai facili schematismi sociologici. Non si tratta perciò di una semplice operazione classificatoria per censire quali siano stati i centri antichi scomparsi e abbandonati o abbandonati del tutto, come Senuessa, Liternum, Suessula, eccetera, Calanzia, Pestum, Elea, Siris, Eraclea, Metaponto. Rispetto al mondo antico, nell'alto medioevo, fin quasi a tutto l'VIII secolo, nel sud si ebbe una forte riduzione quantitativa degli insediamenti urbani. E per quei secoli l'Enziam Perriere Ruine si traspose nel topos mistico letterario del Ubi Sunt e ridette vita, in certo modo, al senso cristiano, in senso cristiano, al modulo storiografico polibiano dell'Aftorà, legato proprio alla decadenza fisica materiale delle città. Causa di questo larghissimo fenomeno non furono in sé le migrazioni germaniche, che anzi esse favorirono gli insediamenti, ma la crisi demografica del Basso Impero, con il pauroso spopolamento e l'abbandono dei centri abitati minori, di molte sedi vescovili, gli impaludamenti del Clanio e del Sele, che compromisero il sistema viario, in particolare la Domiziana e l'Annia Popiglia, la guerra gotica che ebbe nella Campania il suo maggior teatro, nella piana del Sarno, di Nocera fino a Cuma, e infine la peste che rimase endemica dalla metà del VI a tutto quasi l'VIII secolo, senza naturalmente tener conto delle nefaste incursioni dei saraceni, che erano rivolte soprattutto alla tratta degli schiavi, a cominciare dall'VIII secolo. Il complesso di questi fattori sta anche alla base del fenomeno delle città retratte, con una forte contrazione dell'area abitata e la conseguente degenerazione della vita urbana, come accadde a Pozzuoli, che era di dimensioni vastissime nell'età classica, per essere appunto il porto commerciale più grande di Roma. Pozzuoli si restrinse nell'area dell'antica Acropoli, ridotta a Castrum. Come accadde anche a Benevento, Longobarda, fra il VI e l'VIII secolo, che si ridusse nella cinta muraria dell'altura orientale extramurana della città romana come sede della corte ducale, fino a quando poi Arecchi, fondatore del Principato, dopo il 774, Civitatem Nobam Benevento Addidit, nella zona pianeggiante sud-occidentale. Analogo a questo e più frequente è il trasferimento, sempre per la ricerca della difesa e della sicurezza, degli abitanti dalle città costiere verso l'interno, o gli abitanti delle pianure sui crinali dei colli delle alture, ripristinando il sistema viario che era già stato degli antichi popoli italici. Quindi abbiamo il fenomeno per cui si va da Formia a Gaeta, da Silvestra a Mondragone, da Suessola ad Acerra, da Capo a Vetere alla Nuova Capua, da Pestum a Capaccio nell'interno, da Elea a Novi Velia, da Metaponto e dalla Silicide verso Tursi e le forre rupestri di Matera, un fenomeno quindi di arretramento dalle coste e dalla piana. Abbiamo infine fondazioni di città che possono considerarsi del tutto nuove, come Amalfi, Salerno, Gaeta, Caserta ed altre, mentre due sole delle antiche, Napoli e Sorrento, mantengono intatto la loro antica struttura urbana, modificandola solo all'interno, senza guastare l'impianto ortogonale dei Cardi e dei Decumani. Quale consapevolezza, o se si vuole anche quale ideologia operasse in queste così varie tipologie urbanistiche, quando a cominciare dal IX secolo nelle regioni del sud riprende con segni che appaiono intempestivi la vita cittadina, si può cogliere solo se si abbiano presenti le tre diverse aree etico-politico, politiche, sociali e culturali in cui si frantuma il sistema particolaristico delle formazioni statali dell'Italia meridionale. Si può comprendere questo anche se si tiene conto che ognuna di quelle città fu una capitale o di principato o di ducato o di comitato e che fu a un tempo anche sede vescovile e che le più importanti, a cominciare dalla seconda metà del secolo X, furono elevate anche a sedi di circoscrizioni metropolitiche. Per spiegare la crescita degli insediamenti e di vita cittadina più organizzata, va premesso che nel sud, in un ambiente che già fra il VI e l'VIII secolo era apparso a Gregorio Magno e a Paolo Diacono, un ambiente di grandi solitudini, immerse in silenzi primordiali, si registra un forte incremento demografico, anche attraverso notevoli trasferimenti di popolazioni. una corrente migratoria di greci dal Peloponneso, in seguito alla invasione avarica, raggiunse dopo il VI secolo i più sicuri rifugi nelle terre italiane della costa ionica. Questa è una notizia che deriva dalla cronaca di Mona Invasia, pubblicata di recente dal Deutsche. Sappiamo anche che il sud, dopo l'invasione islamica, accoglie profughi armeni. Sappiamo che Basilio I invia in Puglia e in Calabria 3.000 schiavi affrancati, che monaci greci, sfuggendo alla persecuzione iconoclastica, si concentrarono nelle eparchie del Mercurion e dell'Asinianon fra Basilicata e Calabria. Paolo Diacono ricorda l'invasione di bulgari e di slavi che si sarebbero stanziati fra Boiana e Isernia, ma egli stesso, Paolo, fa parte di quel massiccio trasferimento di Longobardi dal nord e dal centro dopo la caduta del regno. Di questo fenomeno non si tiene sufficientemente conto. Questo abbandono dei Longobardi del nord e del centro e il loro trasferimento nell'Italia meridionale, quelle sue gentis reliquias, come è detto nel prologo delle leggi di Adelchi, che Arechi, il primo dei principi longobardi del sud, accolse e rexit honorifice in quella che venne chiamata la pace beneventana e in Benevento che veniva chiamata Laticinum Geminum. Qui nel sud i Longobardi dovevano poi ancora per 3 secoli sviluppare e maturare la loro civiltà. Ed è anche certo che la popolazione di Napoli e di Amalfi, e anzi di tutta la costiera amalfitana sorrentino, fu potenziata per l'afflusso di profughi dai tempi della guerra gotica per disposizione di Belisario e nei 2 secoli successivi quanto durarono le guerre fra i Longobardi dell'interno e i ducati romanico-bizantini della costa che abbandonarono Cuma, le terre flegree, la Liguria, il Nolano e la piana del Sarno e di Nocera. L'incremento demografico del sud si fa evidente, cessata la peste endemica con l'episodio registrato al 767, in tutte le 3 diverse aree etnico-politiche, quella longobarda, quella di dominio greco e l'area romanico-bizantina, nel corso del IX secolo. Ma in tutte e 3 gli ambienti sono comuni e dominanti i processi di militarizzazione e di ruralizzazione della società. Dovunque, nella dissoluzione dei poteri centrali e nella crisi del potere civile, si sovrappone la classe militare e quindi troviamo Ipatia a Gaeta, Magistri Militum, Consules e Duche a Napoli, Prefetturi, Comites e Duca ad Amalfi e Sorrento, Gastaldi, Duchi, Conti, Principi negli Stati Longobardi, strateghi nei 3 temi bizantini di Longobardia, ossia di Puglia, di Lucania e Calabria, finché furono riuniti nel Catepanato d'Italia. Da questa classe, come è noto, trae l'origine l'aristocrazia cittadina. Ad Amalfi, anzi, si dà il caso, messo in luce di recente dallo Schwarz, Ulrich Schwarz, si dà il caso di famiglie patrizie che sono state dette di memoria lunga perché nei documenti hanno la premura di indicare tutta la loro ascendenza per generazioni e generazioni e se ne contano fino a 10-12 in questi documenti, fino a risalire ai comitas del IX secolo, comitas che erano stati registrati nel Chronicon Salernitanum e successivamente nel Chronicon Amalfitanum. C'è un fenomeno che dimostra molto chiaramente come la genesi del potere militare dia origine a questa classe che chiamiamo aristocratica e che però in questo caso specifico di Amalfi tende a dimostrare con questa memoria lunga ascendente per la sua legittima origine militare e guerriera. Ora, questa società guerriera che provvede alla difesa vive di proprietà fondiaria. Non sono cose nuove che dico, ma questa diaspora signorile che si radia in una fitta rete di comitati autonomi in area longobarda, nell'area del Molise, del Cilento, della Marsica, dell'Abruzzo, dell'Alta Campania, eccetera, nel corso del X secolo, coincide in una con le numerose colonie anche del monastero di Monte Cassino, coincide con la messa a cultura delle terre che erano per l'innanzi deserte e abbandonate. Il fatto stesso che la classe nobiliare cittadina potesse così, e anche la classe signorile degli altri stati non costieri, potesse irraggiarsi in tante e frazionarsi in tante signorie di media grandezza, dimostra che questa classe poteva trarre dalla terra e dalle forze di lavoro in essa insidenti un vigore adeguato a sostenerla. Anche nel sud l'immagine della città medievale non va disgiunta, lo si diceva anche ieri, almeno alle origini, da una prevalente condizione rurale e contadina per la sopravvivenza degli usi civici, secondo il disegno che già ne tracciò il Freitag e che piacque al Sombart, una cosa, un ricordo di antiche letture, talché c'è stato, e questo è importante, c'è stato chi di recente, per la prevalenza della documentazione attinente alla proprietà e alle attività agricole, piuttosto che alle transazioni commerciali, c'è stato chi si è chiesto, ma è una provocazione, se la conclamata prosperità mercantile di Amalfi, dove invece è certo il miracolo dell'agricoltura, non sia o un enigma storico o un mito storiografico, appunto perché le testimonianze sulle imprese marinare sono tutte quasi di carattere letterario o cronachistico. Chi è il provocatore? È del tempo. Ma il discorso forse lo riprendo. Anche per i temi bizantini, ad eccezione della costa pugliese e ionica, con Taranto, Trani, Bari, che nel corso del IX secolo fino all'871 era stata sede di un emirato arabo, non si conoscono formazioni urbane di rilievo, ma solo degli insediamenti piuttosto numerosi di Corria e di Castra, e cioè di piccole borgate fortificate. Fu invece promossa dallo stratega Flagizio nel corso dell'undicesimo secolo, come tramanda con un racconto assai vivace la cronaca di Tres Taberne, se ne occupò Holtzman, la fondazione di Catanzaro, che doveva diventare un centro attivo, l'unico nel sud, di produzione della seta. Nello stesso secolo poi, fra il 1017 e il 1028, il catepano Basilio Boianes promosse nella capitanata una serie di fortificazioni dalle quali si svilupparono i centri di Melfi e di Troia, mentre poi Foggia e Lucera sorgeranno nell'età degli Svevi, che vi deportarono al tempo di Federico II una colonia di Saraceni di Sicilia, e anche nello stesso periodo va collegata la migrazione dei valdesi profughi dalle valli piemontesi del Pelese e del Chisone, che fondano alcuni centri abitati della Calabria. Anche ai tempi degli Svevi, a Corrado IV precisamente, si riporta la fondazione di una città negli Abruzzi con il toponimo imperiale di Aquila, assai caratteristica perché si forma dalla secessione degli abitanti di molti castelli circostanti, che si inurbano e costituiscono uno dei comuni meridionali fra i più vivaci per coscienza municipale. Ma se cerchiamo in questo articolato sistema di insediamenti e di centri urbani, così fortemente condizionato da circostanze storiche e ambientali, quali simboli di culture o anche ideologie si esprimano nella loro struttura materiale, si vedrà da un lato la negazione per motivi di sicurezza dell'insediamento sparso che era stato della villa romana nella morfologia così tipica del paesaggio meridionale dei piccoli centri arroccati secondo lo schema castrense in cima ai monti, in posizione oggi ritenuta assurda ma che già in origine si negava ai contatti e agli scambi e rendeva difficile raggiungere le campagne sottostanti, dall'altro le città che si caricano di significati ideali e che se attestano una presa di coscienza municipale vanno però al di là della realtà concreta e presente per vivere di mito con il richiamo del passato. Cioè, voglio dire che le città meridionali sono già segnate dalle origini da questo fatto culturale predominante sui valori realistici della vita economica. Così a Napoli nel IX secolo Guarimpoto rifiuta l'etimo di città nuova ed è detta, come volle Ottaviano, Enneapolis, cioè signore di nove città, e favoleggia di Virgilio, di Partenope e di Giustiniano, che ordina a Belisario di costruirvi torri hexagonas, octagonas. E Amalfi nel X secolo ha già elaborata la leggenda che la voleva fondata da quei proceres romani che avevano seguito Costantino nella traslazione a Bisanzio e che poi naufraghi dopo molte peripezie eleggono loca munitissima contra omnes adversarios cum copiosis aquarum fluminibus per fondare la città anch'essa tipica abbarbicata su rocce scoscese e impervie da non fare neppure pensare che sarebbe diventata un grande emporio marittimo. Anche i Longobardi, fondatori della nuova capa sul Volturno, si richiamarono al passato. Già Cicerone e Floro la chiamavano capa la secundam Romam, la seconda Roma o altera Roma, e anch'essi la chiamarono secundam Romam. Anzi, nel Carmi scritto sulla porta aurea della città, ricordavano che se l'antica senatorum pollebat fulba caterbis, nomine sed capo vocitato retista secunda. Fra i motivi ideali che alimentarono la coscienza cittadina nel sud, incide fortemente il patriottismo longobardo. Ed è dopo la fine del regno che Arechi, per resistere ai franchi di Carlo Magno e di Pipino, allarga, come abbiamo detto, la cinta muraria e poi soprattutto innalzò dei monumenti che hanno in se stesso significati simbolici, come la Santa Sofia. Ma poi soprattutto fu fondata Salerno, urbem munitissimam ac precelsam in modum tutissimi castri, opere mirifico, celebrata Salerno da Paolo Diacono, con un carme che comincia emula Romulis consurgunt menia templis, e celebrata dall'anonimo salernitano del secolo X, anche civitatem munivit atque inea mire magnitudinis immo et pulchritudinis palatium constructit. Al mito delle origini si collega il processo della demonizzazione della città, la magica tutela di taumaturgie come quelle di Apollonio di Tiana a Costantinopoli, si ritrova a Napoli con le leggende di Virgilio Mago che dona alla sua città prodigiosi talismani per difenderla da nemici e da epidemia. Ma più ancora vale il patrocinio di santi prestigiosi e delle loro reliquie. I principi Sicone e Sicardo si danno alla rapina dei corpi santi per fare di Benevento un palladio. Tutte le città maggiori vantano la tutela apotropaica di santi di eccezione. San Nicola a Bari, San Bartolomeo a Benevento, il Martire Gennaro a Napoli, San Matteo a Salerno, Sant'Andrea ad Amalfi. E il racconto avventuroso di ognuna di queste inventiones et trastrazioni è carico di presagi. Il santorale, insieme, e anche la vantata, spesso vantata, origine apostolica della fondazione della Chiesa, contribuiscono a formare un senso comunitario della vita cittadina. Nella vita interna delle città meridionali, sia pure attraverso frammenti di testimonianze, è possibile già dal IX secolo cogliere una rappresentazione piuttosto mossa e articolata delle condizioni sociali ed economiche. Le fonti, se non proprio di classi sociali, parlano di categorie differenziate di persone. Anzitutto i nobiles, detti anche illustres, primores, proceres, magnates, poi i mediocres e al terzo posto la pars vulgi, l'omnis populus, la plebs. Ma sono differenziati anche i clerici et monaci primates, livellari e alloderi, liberi e servi. Ma di questi servi le carte di affrancazione sono numerose. Comunque suscita perplessità definire la qualifica di mediocres, uomini certamente liberi, forse artigiani, mercanti, ma fino a che punto e dentro quali limiti imprenditori. Negoziatores percorrono la Campania con i plaustra onerata victualis multisque opulensis e nel trattato dell'856 di Sicardo, principe di Benevento, con Andrea, duca di Napoli, è stabilito che negoziatores abusisque partibus in lesi permaneant. Si stabilisce un flusso costante di attività mercantili fra le signorie longobarde dell'interno, di prevalente economia silvo-pastorale ed agraria, con le città marittime della Puglia e della Campania. Amalfi, dove i mulini sono una forma di investimento assai diffuso, importa e commercia grano che la costiera non produce. In Puglia le cosiddette rivolte anti-bizantine, che culminarono poi nel secolo X con Melo di Bari, queste lotte nascono dalla rottura tra la classe mercantile delle città costiere con l'aristocrazia fondiaria e militare dell'interno, derivata dai primitivi insediamenti longobardi. Alla dinamica dell'economia complementare fra città e campagna corrispondono le relazioni commerciali marittime con l'impero greco-bizantino e il Mediterraneo arabo-islamico. Giovanni VIII scomunica il duca di Napoli e i prefetti di Amalfi per avere stretto alleanza con i saraceni, un'empia alleanza, pro turpis lucri commodo, vietando loro gli aditus, gli approdi, in quibus negoziari sunt soliti. E infatti, stando alle onoranzie civitatis papie, i mercanti del sud, Salaterni, ma forse sta per Salernitano, ovviamente, Gaetani, Malafetani, anche questo per Malfitani, solebant venire a Pavia cum magno negozio. E forse questi mercanti sono quelli che vendevano a Roma sotto costo rispetto ai veneziani, come potrebbe dedursi dall'episodio della vita di San Gerardo d'Aurillac. È un noto episodio. Troppo nota e documentata è la presenza di amalfitani a Costantinopoli, ad Antiochia, ad Alessandria, al Cairo. Troppo nota anche la loro presenza, la presenza di monasteri amalfitani in Oriente, a Latos. Un cronista ebraico, Ibrahim, no, Yahya ibn Said, racconta di questi rum amalfitani prima assaliti e poi indennizzati al Cairo. Direi più significativa la notizia che si ricava dal Crisobulon degli imperatori Basilio II e Costantino VIII del marzo 991, con il quale si vietava ai veneziani di coprire con il loro nome merci di amalfitani, di ebrei e di longobardi di Bari. Il mercante e geografo arabo Ibn Awqal, circa il 972, definisce opulente Amalfi a Salerno, dove ammira pezze di lino che non hanno l'uguale in nessun altro opificio del mondo, scrive. E ricordai l'altro anno in questo seminario che ad Amalfi sarà recato l'abate Desiderio per acquistare viginti pannos sericos, quos triblatos appellant, da donare all'imperatore Enrico IV. Ricordo infine che agli inizi del secolo X a Capua opera una famiglia di monetieri, i Paltiel, forse profughi da Venosa dopo la persecuzione di Basilio I. C'è una cronaca di un esponente di questa famiglia, Aimas ben Paltiel. Queste notizie e molte altre che trascuro sono però notizie rapsodiche, slegate fra loro, e che non servono agli economisti per una valutazione esatta del mercato, della intensità dei traffici, del volume delle merci, però possono valere a disegnare un quadro piuttosto vivo degli ambienti cittadini del sud prima dell'avvento dei Normanni, se si tenga conto anche dei prestiti culturali che l'Italia meridionale assume dalle superiori civiltà greco-bizantina e islamica e che essa traduce in una versione propria e trasmette facendosene mediatrice con l'Occidente latino-franco-germanico. D'altro canto, neppure rilevanti, almeno allo stato attuale della ricerca, sono i dati relativi alla partecipazione delle aristocrazie nel governo delle città, nelle quali, del resto, come si è detto, si era affermato il potere assoluto e consacrato delle dinastie. Amalfi, l'aristocrazia viveva di proprietà fondiaria e fu estranea alle attività del commercio, praticato da mediocres e minores, forse emigrati e agenti ed operanti per conto d'altri. Ma non c'è notizia che l'aristocrazia cittadina costituisca accanto al duca una forza di potere oligarchico. Solo a Benevento, con le già ricordate coniurazioni del 1015 e del 1041, ed a Napoli, l'aristocrazia si impone rivendicando alcune libertates dal principe o dal duca. Circa il 1030, ma è una data controversa, molto discussa dai giuristi e dagli storici, circa il 1030 il duca Sergio si obbligò con una promissio di garantire omnibus nobilibus neapolitanis et omnibus hominibus medianis et omnibus hominibus Neapoli habitantibus et manentibus la libertà personale con il diritto alla proprietà e al libero commercio, di rispettare le franchigie dei mercanti, di non introdurre nuove consuetudini e di non far guerra o tregua o pace absque consilio de quam pluribus nobilibus neapolitanis. Ma numerose sono, a cominciare dall'undicesimo secolo, le carte libertatis concesse a città o anche a gruppi consortili. Sono numerose anche carte di obbligazioni assunti per verbum cunctorum hominum, oppure vice omnibus hominibus. Queste espressioni di contese sociale e della inquietudine delle aristocrazie locali avrebbero anzi favorito, secondo lo Schipa e il Pontieri, insieme ad altri fattori, la conquista dei Normanni. In realtà la lotta accanita che impegna concordi tutte le popolazioni cittadine contro i loro assalti, con gli assalti normanni, è combattuta pro libertate tuenda, cioè nel segno della difesa delle franchigie che sapevano di dover perdere. Estranei all'ambiente, i normanni, ad rapina mavidi, ad invadenda aliena bona in exblebiliter ansi, i normanni nel secolo della conquista sconvolgono il sistema politico dell'Italia meridionale con una violenza di cui non si riesce a cogliere la spietatezza attraverso la cronachistica ufficiale ed encomiastica. A non dar retta a Benzone, per il quale essi sono nulli manni, fetidissima stercora mundi, perché Benzone si sa bene è uomo di parte, ma Gregorio VII con l'abate cassinese Desiderio sono alla base dei successi dei Normanni nel sud. Benzone, che cercò d'intesa con Pantaleone da Costantinopoli di gettarli contro i due imperi, hanno retto a questa testimonianza e soprattutto alla cronachistica ufficiale, Amato, Malaterra, Guglielmo di Puglia ed altri, le fonti documentarie sono concordi nel presentarli, visti per così dire dall'altra parte. Io ho raccolto una serie di testimonianze in nota. Le città tutte, e non le dinastie soltanto, oppongono una fiera resistenza alla conquista. Capua cadde dopo molti ripetuti assedi e dapprima i cittadini non cedono le fortezze ma offrono loro oro. Alla fine quelli di Capua, dice una fonte, erano piegati dalla fame e tuttavia combattevano per difendere la città, e le donne portavano pietra agli uomini e i padri insegnavano ai figli a combattere. Drammatiche e combattute furono le rese di Salerno nel 1077, di Bari nel 1071, che poi riprenderà la lotta. Amalfi si piega una prima volta nel 1073, dopo un tentativo di darsi al Papa, come aveva fatto nel 1051 a Benevento, senza però cedere i castelli, retentis munitionibus, che cadranno solo nel 1131. Napoli sarà l'ultima a cedere il suo honor nel 1137, quando già Ruggero II era re e affrontava dal 33 la riconquista di tutte le città meridionali, ribelli con i baroni durante la lotta contro la coalizione di Innocenzo II. Per anni la città aveva resistito e i suoi cittadini, qui libertati in vigilabant civitatis, mori prius famis morte malebant, quam sub nefandi regis potestate colla submittere. Fu durante questa guerra che per due volte, nel 1035 e nel 1135 e nel 1137, i pisani alleati del Papa sbarcarono ad Amalfi e seminarono rovine nella città e in tutta la costiera. Da ultimo, nel 1156, durante un'altra rivolta di baroni e di città pugliesi, Guglielmo I distrusse Illa Prepotens Apulie Civitas, il Bari appunto, che dice sempre Ugo Falcando, fu in acervos lapidum trasformata. Le città meridionali combattono e sembra questa loro lotta, una lotta consapevole. Combattono, è detto, pro libertate a augenda. Pertanto risulta complessa la loro collocazione nel sistema contraddittorio della monarchia normanna. Contraddittorio come sistema. Nella Costituzione del Regno si introduce l'ordinamento centralizzato burocratico amministrativo, che però coesiste con il particolarismo feudale. La città, demaniale o feudale che fosse, diventava di fatto una unità fiscale controllata da cui il potere traeva risorse. L'affermazione di Romualdo Guarna, secondo la quale il re Ruggero, nel momento in cui istituì i giustizierati, ossia i distretti amministrativi, secondo il quale dunque avrebbe tolto le malas consuetudine, va attenuata nel senso precisato dalla Assise Ruggeriana, secondo cui mores e consuetudines vigenti nei vari luoghi venivano abrogati solo ove contrastassero manifestissime con la legislazione regia. Nasceva così l'Università Meridionale, una istituzione ibrida e singolare, governata dal Baiulo Regio, o come altrimenti si chiamasse, Iudex Stratigoto con Palazzo, con competenza in criminalibus, nelle cause civili, nell'amministrazione delle terre demaniali, nella esazione dei tributi, ma che lasciava alle famiglie patrizie, ai mediani e al popolo, qui comune vocabolo dice sul grassus, non de populo minuto et artistis, e alle loro associazioni competenza nella vita interna, nella ripartizione dei tributi, nella organizzazione urbana e soprattutto nella attività economica e commerciale. E insomma, quei boni usus et bone consuetudines, quibus ab antiquo uti consueverunt, che danno poi luogo alle successive codificazioni statutarie. Ma che di fatto svuotano di significato politico la tradizione di autogoverno delle comunità cittadine. Tipica e singolare anche nel nome, l'università veniva indicata con questo termine sulla base della tradizione del diritto romano giustinianeo, che si era sempre mantenuta viva nell'ambiente romanico bizantino del sud, e che la inseriva fra le persone giuridiche, secondo già la definizione di Sesto Pomponio, territorium est universitas intra fines cuiusque civitatis. Entro questi limiti si collocano il comune come entità giuridica e la società cittadina nel regno normanno, e così vanno intese le molte carte concessionis, carte di franchigia, carte otriate, cioè che non sono negoziate e che non debbono risolversi per fraudem ad damnum nostrum, e cioè con una limitazione della sovranità. A Napoli Ruggero II è largo di concessioni e non revoca la promissio Sergi, ma di fatto non avrà ulteriore sviluppo la prevista societas inter nobiles facta seu facenda. Solo durante il regno di Guglielmo II, quando furono meno virulente le rivolte feudali, si ebbe un riconoscimento larghissimo dei diritti consuetudinari delle città, ma soprattutto la fragilità della monarchia normanna e la sopraggiunta crisi dinastica tra la fine del X e gli inizi del XIII daranno spazio da parte delle città a quelle che Federico II avrebbe chiamato le usurpazioni illicite nell'attività commerciale dei porti pugliesi. Con l'opposta sponda adriatica si registrano patti di isopolitia tra Bari, Molfetta e Monopoli con Ragusa, di Bari con Cattaro, di Termoli con Ragusa. E un patto di comborghesia era similmente il privilegio del 9 maggio 1190, che i consules dei seggi, i comestabuli, i milites e l'universis populus, egregie civitatis Neapolis, concedono a scalesi, ravallesi e a tutti gli altri negozianti e cambiavalute, camsores, con il diritto di commerciare liberamente, di abitarvi, di aprirvi apotecas ed eleggervi i propri consoli, seguito un mese più tardi dal privilegio di Tancredi, conte di Lecce, uno degli aspiranti alla successione del regno, con cui riconosceva ai napoletani una serie larghissima di libertates, compreso il diritto di batter moneta. Il Filangieri ritiene la concessione della cittadinanza napoletana ai mercanti del Ducato di Amalfi una prerogativa sovrana e ne induce che nel periodo fra la morte di Guglielmo II e il fallito assedio di Enrico VI a Napoli, Napoli appunto si reggesse al libero comune. Ma episodi simili non mancano. Anche a Benevento, anche nella Benevento Pontificia, nel 1128 un moto popolare aveva ucciso il rettore e costituito, come racconta Falcone, il comune. Ma queste ed altre, come quelle per Troia, per Gaeta, sono testimonianze non di una cosciente autonomia politica e di una forza sociale interna, ma soltanto di un attaccamento ostinato alla tradizione che si esauriva nei compromessi col potere regio. Sono communes vanitatum, come si esprime un cronista dell'età federiciana. Si chiama Bartolomeo di Neocastro, perché tu me l'avresti chiesto, no? Sono communes vanitatum, mera parodia degli ordinamenti e del mos civitatum Longobardie et Tusche. Federico II, con il suo senso dello Stato, non solo abrogò i privilegi di Tancredi per Napoli, ma in base ai principi giuridici delle sue costituzioni amalfitane, decretò il totale annullamento delle autonomie locali con l'abolizione di ogni magistratura creata ex collazione populi, pena la desolazione perpetua. Il suo intervento nelle concessioni di libertates si limita soltanto alle franchigie per le attività commerciali, per dar vita all'economia del regno. Ed è appunto in età federiciana che si fa più intenso il fenomeno della diaspora amalfitana e dei mercanti della costiera nelle città dell'interno del regno. Appunto perché per la difficoltà di reggere il confronto nel mare con pisani, genovesi e veneziani, riconvertono, per così dire, la loro economia riversandosi sui mercati interni. Ne troviamo a Napoli, come si è detto, ad Aversa, a Benevento, a Melfi e in quasi tutte le città della Puglia e della Sicilia anche. Sono i gruppi familiari dei Biondi, del Rogadeo, dei Frezza, dei Bove, dei Ruffolo, dei Sessa, dei Coppolo, degli Afflitto, non solo di Amalfi ma anche di Ravello, di Scala, ed ottengono da Federico II concessioni e privilegi di varia natura e di conservare in quelle città gli antichi diritti e di avervi fondaci, chiese e monasteri, come aveva fatto anche nel 1184 Lucio III per gli amalfitani residenti nella pontificia città di Benevento. Ma già ormai l'economia del regno risultava compromessa alla base non solo da fattori interni, ma soprattutto esterni, per la concorrenza che facevano nei porti meridionali mercanti pisani, genovesi, veneziani, catalani. Non si trattava soltanto di un'apertura di mercati liberi alla concorrenza che integrasse l'economia agricola del sud con l'attività manufatturiera dei comuni del nord, ma di mercati privilegiati dai noli e dalle molte esenzioni, come già nell'età dei due Guglielmi, i re di Sicilia favorirono il commercio esterno. Il primo di questi Guglielmi nel 1134 concesse e il secondo nel 1174 confermò privilegi ai navigli di Genova, Savona e Pisa nei porti tirrenici e di Venezia nei porti adriatici, con esclusione dei porti di Napoli, a Gaeta e a Amalfi. La crisi del regno, la crisi del Vespro accentua la crisi del commercio marittimo con il distacco della Sicilia aragonese, ma la regressione economica del sud diventa irreversibile con l'avvento della dinastia angioina, e non tanto perché Carlo I d'Anciò consegnò l'economia del regno a mercanti e banchieri fiorentini, ma più pesanti si fecero le conseguenze dell'avvassallamento alla Chiesa, con cui dalle origini era nato il regno, e per la virulenza di una feudalità che si era stratificato inglobando quasi tutte le università demaniali. La storiografia ha rivolto poca attenzione ai 47 capitoli emanati da Carlo II il Ciotto, ancora allora principe di Salerno, nel Parlamento Generale di San Martino di Finito in Calabria Citra il 30 marzo del 1283. Paragonati malamente alla Magna Carta inglese, questi capitoli consegnavano il regno nella sua totalità alla feudalità laica ed ecclesiastica, e con essi si abdicava anche ai diritti essenziali delle università e della stessa corona. Sebbene agli Angioini si possa attribuire il merito di avere inserita Napoli nell'alveo della cultura più propriamente europea, nel regno predomina la intolleranza guelfa e vengono eliminate le vulpecule, quidam fili belial credentes reticorum, messe in crisi dalle fondazioni florenzi. Sterminata nel 1300, nell'agosto, la colonia dei Saraceni di Lucera, che aveva messo a cultura il tavoliere, fermato il processo adombrato nel ghibellinismo di Federico II di una nascita dello spirito laico. Se si accetti qualche tentativo da parte di Carlo II e di Roberto d'Angiò di introdurre attraverso i tecnici fiorentini l'arte della lana nel regno, destinata però ad avere vitagrama, mancano nelle città, ormai superate dal contado anche per l'imperversare il banditismo, le condizioni per dar vita a un ceto medio, cosciente e imprenditoriale, capace di costituirsi in classe sociale. Gli esponenti delle aristocrazie cittadine, ove non si combattono fra loro nelle fazioni dei seggi, come a Napoli, come a Salerno i Santomagno e gli Aiello, come a Bari gli Adralisto e i Melidi, come nella costiera fra Amalfi e Ravello, lotte queste che sono certamente lotte di potere, in cui le parti e gli interessi non risultano molto definiti chiaramente, comunque sono legati prevalentemente ai momenti delle successioni dinastiche. Ove dunque non si combattono queste aristocrazie cittadine, vengono deviate soprattutto nella carriera della burocrazia. L'unico investimento della rendita agraria o anche delle attività mercantili veniva impegnato nell'acquisto di cariche pubbliche, giustizierati, baiulazioni, uffici di giudici, stratigoti, capitani, portulani, segreti, apprezzatori, eccetera. Tutto il congegno dell'apparato amministrativo era messo in vendita. La monarchia, osserva il Caggese, resta moralmente estranea alle vicende della vita locale, non ne valuta i significati, non ne intende i bisogni e le tendenze, non può quindi guidarne gli impulsi. Ed accadde così che quando Ferrante d'Aragona avviò nella seconda metà del 1400 la sua dura ma impari lotta contro il baronaggio meridionale, gli mancò quel sostegno delle classi medie, delle città, sulle quali faceva leva in Francia il suo contemporaneo Luigi XI. Questa conclusione in chiave negativa di un discorso che sia pure che sia pure per lineamenti essenziali, alcuni dei quali chiedono ulteriori verifiche, si arresta alle soglie dell'età moderna. Ma è un discorso interrotto se città sono non saxa sed habitatores, come diceva Isidoro, se sono un corpo vivo che cresce nei tempi lunghi col suo passato. Per ognuna di esse bisognerebbe chiedersi come decolla verso la società moderna. Franca Assante ci ha provato per Amalfi. Chiedersi, insomma, attraverso un'archeologia di comportamenti, come mutano di volto e se recuperano il passato come mito in cui rifugiarsi o come tradizione che vivifica la coscienza civica proiettata verso il presente. Se insomma, come diceva Goethe, riescono a comprendere il passato, altrimenti, Goethe diceva, sono condannato a riviverlo. Grazie. Diesmal ohne Arenga sage ich, dass der Sommario della Lezione Cilento, der Ihnen vorliegt, sehr klar die unendlich vielen Dinge wiedergibt, oder jedenfalls andeutet, von denen Herr Cilento gesprochen hat. Herr Cilento hat allerdings, offenbar der Kürze wegen, in der zweiten Hälfte seines Sommario einige Sprünge machen müssen und nur in seiner Anleitung, warum er das Wort diverso, andersartig, in seinem Thema in Anführungsstriche gesetzt hat, hat er zum Beispiel von dem gesprochen, was hier unter Nummer 10 steht, Fehlen von Ketzern in den, im südlichen Königreich. Denn, wie er in der Einleitung sagt, ein Teil des städtischen Selbstbewusstseins mag auch auf das Vorhandensein von Ketzern und deren Freiheitsdrang zurückzuführen gewesen sein. Ich glaube nicht, dass es Sinn hat, dass ich Ihnen das übersetze, das können Sie selber, aber ich möchte an einigen Stellen vielleicht die Beispiele, die ich mitbekommen habe, in dem unendlich reichen Referat Ihnen sagen. Die Probleme, Kontinuität des städtischen Lebens seit der Antike bis ins Mittelalter und dann darüber hinaus, sind nach den Diskussionen, über die Herr Cilento berichtet hat, ist man heute einig, dass die Veränderungen, die zwischen der antiken Stadt und der mittelalterlichen Stadt auch im Süden Italiens festzustellen sind, dass die so erheblich sind, dass man von Kontinuität zwar vielleicht, jetzt sage ich es mit meinen Worten, mit dem Isidor-Zitat, das er am Schluss gebracht hat, dass vielleicht die Saxa, die Steine noch dieselben sind und Bewohner hat es auch immer gegeben, aber mehr Kontinuität ist wahrscheinlich nicht da. Die Frage der Vorwegnahme oder der früheren, der Fortschrittlichkeit gegenüber dem Norden hat sich zum Teil auch geklärt. Ich habe mir gemerkt, das Beispiel von Benevent, wo am Anfang des 11. Jahrhunderts Boni Homines sich zusammentun, um sich gegen den Fürsten zu verschwören. was lange Zeit als eine Konjuratio im Sinne eines städtischen Kommune angesehen worden ist, wo es sich aber offensichtlich mehr darum handelt, dass eine Adelspartei sich gegen den Herrscher zusammenschließt. In diesem Zusammenhang hat Herr Cilento gesagt, dass die Boni homines, die zu verschiedenen Zeiten im südlichen Königreich vorkommen, in der Regel Richter sind. Und damit hat man gleich wieder die Vieldeutigkeit von Herkunft oder Funktion. Aber jedenfalls nicht ohne weiteres sind Boni homines, die in der Stadt vorkommen, auch städtische Stadtadel oder Aristokratie. Das dritte Thema, Abbrechen der städtischen Autonomie im 12. Jahrhundert, darüber gibt es wohl keine einheitliche Meinung. Die einfache, dass die Normannen die städtische Autonomie zerstört hätten, ist allein nicht ausreichend, obwohl an einer späteren Stelle Herr Cilento uns gezeigt hat, mit welchem Engagement die Städte pro Libertate für ihre Freiheit gegen die normannischen Eindringlinge sich gewehrt haben. Das Übergewicht der Seestädte Genua, Venedig, Pisa ist ganz sicher mindestens ebenso sehr schuld an der Unterbindung der städtischen Autonomie und auch die starke Feudalisierung des Reichs. Das Normannenreich ist ja ein Lehnreich, was vorher in den Langobardenstaaten nicht so ohne weiteres gesagt werden kann, führt dazu, dass zwischen Land und Stadt ein anderes Verhältnis eintritt, sodass also die städtischen Autonomien im Süden aufhören. Nummer 3. Es gibt natürlich wie überall alte Städte, das heißt antike Städte. Die beiden wichtigsten, die er genannt hat, sind Neapel und Sorrent. Aber es gibt auch neue Städte, die nicht aus der Antike stammen, wie etwa Amalfi oder Salerno. Und gleich vorwegnehmend, unter 7 kommt das bürgerliche Selbstbewusstsein vor. Als Beispiel für Neapel kam ein Zitat aus dem 9. Jahrhundert: Unmöglich kann unsere Stadt eine neue Stadt sein, Neapolis ist Neustadt, sondern es muss heißen Enneapolis, neun Stadt auf Deutsch, eine Stadt, die über 9 andere Städte herrscht. Das also zu Neapel und für Amalfi, da gibt es schon im 10. Jahrhundert die Gründungssage, römische Bürger, und zwar Vornehme, die Konstantin begleiteten, als er die Hauptstadt von Rom nach Konstantinopel verlegte, nach Byzanz verlegte, haben Schiffbruch erlitten und sind eben an der Küste von Amalfi gestrandet und haben dort diese Stadt begründet. Man kann eben nur antik und alt und ganz alt sein, wenn man ein Selbstbewusstsein haben möchte. Vorgekommen ist auch, Beispiel war Pozzuoli und viele andere Beispiele, dass die antike Stadt viel zu groß geworden war, sodass, wie im Beispiel von Pozzuoli, im 10., 11. Jahrhundert nur noch die ehemalige Akropolis bewohnt ist und alles andere brach liegt. Nummer 5 kam vor Nummer 4 im Vortrag. Die Zunahme der Bevölkerung findet im frühen Mittelalter vor allen Dingen durch Einwanderung statt. Im Lauf der verschiedenen religiösen Auseinandersetzungen in Byzanz gibt es viele griechische Emigranten, die übrigens auch in der Geschichte der Stadt Rom eine große Rolle spielen, die gerne natürlich nach Süditalien gehen, weil dort auch schon Griechen wohnen. Dann gibt es aber auch, darauf hat Herr Cilento besonders hingewiesen, nach 774, das heißt nach der Eroberung des Langobardenreichs durch Karl den Großen, langobardische Emigranten, die nach Süditalien gehen, von denen er sagt, die würden in der Regel vergessen oder nicht genügend beachtet. Typologie und Morphologie, das war Nummer 4. Es ging dabei vor allen Dingen darum zu sagen, dass die Ritter bzw. der Ritterstand und die Grundbesitzer in der Stadt eine gewisse Rolle spielen, mehr als vielleicht anderwärts. Beispiel des Stadtadels in Amalfi, der sich nicht am Handel beteiligt, der Grundbesitzer ist und der ein Familienselbstbewusstsein hat, was nun, glaube ich, allerdings einzigartig ist. In den Urkunden nennen die Leute ihre Väter, Vorväter etc. Und wenn dann also ein Manso da ist, dann heißt das Manso, Mansi, Filius, und dann gehen noch die Sämtlichen, kommen die Groß-, Urgroß- und Ururgroßväter bis ins 10., 12. Glied vor. Eine Form des adligen Bewusstseins alter Abstammung, die ich sonst von nirgends her kenne. Wirklich einfach in jeder Urkunde, die so ein Mann ausstellt, nennt er seine ganzen Ahnen und die seines Partners auch. Und ich kann noch gleich hinzufügen, weil das sich, dann brauche ich von Amalfi nicht mehr zu sprechen. Amalfi hat praktisch überhaupt kein Hinterland. Es importiert das Getreide, nicht nur, dass es braucht, sondern auch das Getreide, das es dann wieder verkauft, hat aber viele Mühlen, und in den Amalfitaner Urkunden sind ganze halbe, Viertel oder auch Zehntel Mühlen ein ausgesprochenes Wertobjekt, das also offensichtlich ein Investitionsgegenstand ist, mir in dieser Form auch nur aus Amalfi bekannt und offenbar so bekannt, dass Herr Cilento es auch eigens erwähnt hat. Für das 10. Jahrhundert bereits gibt es aus Neapel, dann aber auch aus anderen Städten, eine Schilderung der Zusammensetzung der Bevölkerung in drei Schichten: Nobiles, Magni oder wie immer sie heißen, Mediocres oder Mediani, und auf die kommt es an, oder Pars Vulgi, Popolo, Populi oder so, die zum Teil unfrei sind, aber unendlich viele Freilassungsurkunden zeigen, dass schon im frühen Mittelalter die Unfreien wohl weitgehend frei geworden sind. Die Schicht, die für uns am wichtigsten wäre, ist offenbar schwer zu fassen, und das gilt ebenso sehr für die Mediocres oder Mediani, die zum Beispiel in Amalfi den Handel treiben, wie später für das 13., 14. Jahrhundert, wo der König sich auf diese Leute nicht stützen kann. Das sind die Mediocres. Das Einzige, was in seinem späteren Ausführen, ich glaube, ich kann das doch nicht so hintereinander weg, an dem Schema entlang gehen, vorkam, war, dass aus den Städten ein guter Teil der königlichen Beamtenschaft kommt. Das heißt also, in dem streng seit dem 12. Jahrhundert immer stärker bürokratisch organisierten Land die Beamten eben zum Teil aus den Städten herstammen. Nur zu Nummer 8 muss ich wohl unbedingt noch etwas sagen, weil unter A heißt es non il comune ma l'università. Wir hatten schon von Herrn Mazzarese Fardella gehört, dass Universitas im Sinne von Stadt oder Kommune etc. es auch in Sizilien gibt, dass man es nicht übersetzen kann. Wir haben heute nun von Herrn Cilento praktisch dasselbe gehört, auch für das süditalienische Festland. In seinem Vortrag hat er gesagt, die Universitas wird regiert von einem königlichen Bajulus, der manchmal auch anders heißt, das entspricht aber wohl auch dem, was wir aus Sizilien wissen, nur dass hier eben der Baronaggio fehlt, der also in Sizilien den starken Einfluss auf die Besetzung dieser Ämter hat. Auch im Königreich Neapel, von dem hier jetzt die Rede war, ist der Bajulus oder welchen Namen er hat, der oberste Richter in der Stadt, hat also alle Gerichtsgewalt. Er ist für die Steuern zuständig, aber, und auch das erinnert an Montagnachmittag, aber er überlässt innerhalb der Stadt den Stadtbewohnern manches sozusagen in eigener Regie. Nach außen hin ist er der Einzige, innerhalb der Stadt kann er auch Macht delegieren. Was mich noch besonders was mir besonders aufgefallen ist, Ihnen sagen möchte, zu einer Zeit, wo laut Handbuch die Städte dieser Gegend ihre volle Bedeutung längst verloren haben, das heißt am Ende des 12. Jahrhunderts, ist in der Leitung des Reiches wieder mal ein Vakuum, das heißt also die letzten Normannenherrscher und bevor dann Heinrich VI. Die Gewalt im Reich sehr gewaltsam übrigens an sich nimmt, gibt es Erscheinungen, wie ich sie nicht gewusst habe, dass zum Beispiel die apulischen Seestädte, Bari, Molfetta und andere, mit den gegenüberliegenden dalmatinischen Städten, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt, gegenseitige Bürgerrechtsverträge schließen. Das heißt, dass die Bürger von Bari auch Bürger von Ragusa sind. Und dasselbe passiert zur gleichen Zeit auch an der tyrrhenischen Küste, etwa zwischen Neapel und Amalfi, dass also Neapolitaner in Amalfi, Amalfitaner in Neapel wie Bürger behandelt werden. Was doch wohl, und so hat es Herr Cilento jedenfalls interpretiert, würde da voll zustimmen, als ein Zeichen einer nicht ganz unbeträchtlichen praktischen Autonomie solcher Städte in dieser Zeit angesehen werden kann. Das Fehlen einer aktiven Mittelschicht in den Städten hat sich auch gezeigt, als die Anjous im 13. Jahrhundert mit Hilfe von Florentinern Tuchindustrie in ihr Reich importieren wollten. Es fand sich niemand, der die unternehmerischen und auch handwerklichen Qualitäten aufgebracht hätte, um diese Sache in Gang zu bringen. Ich höre jetzt auf. Es war sehr, sehr viel und was ich gesagt habe, war sehr, sehr wenig, aber Inhaltsangabe von Herrn Cilento selber gibt ja auch Gelegenheit, noch einfach nach Details oder nach genaueren Erklärungen zu fragen, ohne dass ich also in der Lage wäre, wirklich alles das, was Herr Cilento uns an Details gebracht hat, aufschlussreichen, schlagenden zum Teil Details hier zu wiederholen. Wir machen jetzt eine Pause und ich denke eine Viertelstunde, also fino alle 11:05 bis 11:05 Pause, die wir uns verdient haben. Vielen Dank. Ma c'era tra tutti gli spunti molto interessanti, c'era uno particolare che mi ha interessato ed è quello sulle famiglie patrizie in memoria di un giorno. Uno dei segni di discriminazione tra i ceti aristocratici e i ceti popolari è la memoria degli ascendenti, cioè per gli ascendenti. Noi abbiamo detto ieri il consumo del pane più o meno buono, oltre ad altri status symbol, con la parola odiosa, ma c'è anche un'altra discriminazione di cui di solito non si tiene conto, è quella della memoria. Cioè, vi ricordo per esempio il fatto della legislazione o delle conseguenze della legislazione antimagnatizia a Firenze, quando certi magnati diventano popolari per poter partecipare al governo, ma un padre, io non mi ricordo quale cronista lo dice, un padre dice al figlio di ciò nonostante non dimenticare mai chi fossero i propri antichi. Allora questa memoria indietro nel tempo è una cosa molto importante che tra i popolari si trova, non si trova, oppure non si trova con questa profondità nel tempo. E mi ricordo un'altra cosa di un ambiente diverso ancora, e mi rifaccio a Duby, è un saggio che riguarda la Francia settentrionale. Appena certe famiglie riescono di acquistare diritti e un posto, un luogo fortificato, inizia la memoria familiare. Allora prendono un determinato cognome anche, e allora inizia la memoria familiare, che poi è una memoria che abbraccia circa 100 anni in quel periodo che l'ha visto più di. Il tenere presente chi sono i propri antenati, allora da una parte un modo di differenziarsi dagli altri, ma da un'altra parte anche un esercizio di memoria, mi sembra. E ma anche? Prego? Un esercizio di memoria. L'esercizio della memoria. E il problema della memoria non solo come parte della retorica, come proviene da Cicerone, ma anche per chi è superiore agli altri, chi ha un certo modo da fare, è come signore con una hascia su altre persone, di sapere di più degli altri, di avere una memoria, è una richiesta che viene fuori con il buon compagno da Signia, ricordo la retoria nuovissima, poi viene ripreso sempre sulla base di Cicerone, da Alberto Magno, da Tommaso d'Aquino. Allora in questo periodo il problema della memoria artificiale, diciamo così, come verrà chiamato quel periodo rinascimentale, è presente. Allora io vorrei domandare al professor Cilento, circa questa lunga memoria che hanno delle famiglie patrizie, da che periodo è documentabile o in che periodo soprattutto si lascia documentare? Quante generazioni si va indietro e quali persone si ricordano, anche gli ascendenti di linea femminile, perché può essere anche quello il caso, quando appunto portano la consistenza patrimoniale maggiore, in altre parti l'ho visto, come per esempio anche in Sardegna il cognome non dipende dalla dipendenza da parte maschile, dalla provenienza da parte maschile, ma sempre da chi degli antenati porta in famiglia il patrimonio più importante e maggiore. E un suo nuorese in Sardegna. E poi quante persone sono in definitiva che si ricordano? E il primo anello nella catena è un personaggio veramente esistito o è un personaggio mitico? Frau Tucci weist darauf hin, dass das Bewusstsein Ahnen zu haben auch eine Art Statussymbol ist, wodurch also der Adel sich von Bürgern unterscheidet, und weist also auf eine Reihe von Beispielen hin, die allerdings alle viel später sind, und fragt nun ganz konkret, wann und wo ist solches Adelsbewusstsein in südlichen Italien nachzuweisen, auf wie viele Generationen bezieht es sich, und vor allen Dingen, sind es nur Väter oder sind es auch Mütter, die als Vorfahren und deren Vorfahren erwähnt werden. Il problema di chi fur le maggiortui è la domanda che Farinata fa a Dante, mi pare. Così? Sì. Il problema di questi antenati, che certamente costituisce uno dei segni della nobiltà e contribuisce a quello che è un alone di prestigio. Sì, di prestigio. È stato studiato per Amalfi in particolare da due studiosi recenti. Anzitutto Ulrich Schwarz, il quale ha scritto un volume su Amalfi nel Medioevo ed ha contemporaneamente edito il Chronicon Amalfitanum, un testo molto interessante perché costituito di vari frammenti. Separatamente però, in uno studio pubblicato nel 73, in una relazione al convegno di Amalfi di quell'anno, ha studiato il problema con questo saggio intitolato Alle origini della nobiltà amalfitana, i comites di Amalfi e la loro discendenza. Contemporaneamente però anche Del Seppo ha dedicato al tema un capitolo intitolato La nobiltà dalla memoria lunga nel volume, in collaborazione con Leone, intitolato Amalfi medievale, pure pubblicato nel 77. I documenti che sono richiamati sia dallo Schwarz che da Del Seppo sono documenti che vanno dal XI secolo, pochi, fino al XIV. Ah, ecco. Pochi dal XI, ma a scendere sempre più numerosi. In questi documenti si richiama, che sono documenti che riguardano soprattutto contratti agrari, cessione, cioè documenti privati. Colui che promuove l'atto giuridico ha la premura di richiamarsi ai suoi antenati. Naturalmente, a mano che si scende nel tempo, gli antenati diventano sempre più numerosi. Quindi nel XIV secolo abbiamo documenti che si richiamano nella ascendenza fino a 10 e anche 12, lo Schwarz ha fatto uno studio più meticoloso, 12 ascendenti, che non sono mitici, perché in un passo del Chronicon Salernitanum, che è un testo composto nella seconda metà del X secolo, parlando della leggenda di Amalfi, fa anche la storia e dichiara sicut legimus in libris, cioè è un richiamo a un documento in cui sono elencati perlomeno una ventina di comites, cioè di quei personaggi che nella società amalfitana rappresentavano l'aristocrazia militare. Quindi personaggi della, diciamo, metà del secolo IX. Questo elenco è ripetuto nel cronico amalfitano con la stessa successione di nomi, e quindi è certamente una presentazione di una serie di famiglie amalfitane che già nel IX secolo aveva una situazione di prestigio. Il fatto di richiamarsi all'antenato, secondo me almeno, è certamente un motivo di prestigio, ma non è soltanto legato a un fatto letterario, ma anche religioso, perché mi richiamo all'albero di Jesse, ossia quell'albero che nei Vangeli, mi pare San Matteo e San Marco, fa sì che la discendenza di Giuseppe sia riportata a Davide per una linea. Questo albero di Jesse fu molto divulgato nella cultura medievale, anzi fu anche rappresentato in miniature, eccetera. Questo può avere, diciamo, creato un costume che è poi anche del mondo ebraico e del mondo islamico, il fatto di essere Ibn Said, Ibn eccetera, ossia figlio di questo, eccetera, eccetera. Questo come fatto culturale. Donne però non ce ne sono, mi dispiace per la signora Zucca, ma non c'è un'ascendenza in linea femminile, anche se abbiamo molti documenti che parlano di protagonisti femminili, e questo secondo me è tutto, no? Ecco, io vorrei dire... Giusto. Scusi. Io vorrei dire due cose, forse è meglio se le traduce tutto. Va bene. In una volta. Questo lo sa lei, io No, forse semplifica. Dunque, io volevo fare due osservazioni. Primo, è vero, mondo ebraico, mondo islamico, ma anche mondo longobardo. Non dimentichiamo la lunga genealogia che c'è nella Origo Gentis Langobardorum. Quindi il gusto di elencare i propri antenati... Fatto religioso però. Certo, ma però c'era anche nel mondo longobardo. Forse trasmesso oralmente, forse in questo mondo meridionale in cui si scriveva già molto, anche l'esistenza di archivi familiari sì. da poter sfruttare. E questo mi pare che sia abbastanza interessante. Anche perché noi questi personaggi citati nei documenti li troviamo in documenti precedenti. E vorrei anche dissipare o perlomeno sollevare un problema su quel titolo di comites. Io quel comites non lo tradurrei affatto come graf, con graf, ma lo tradurrei con una parola che in tedesco non so, ma che nel dialetto veneto, nella lingua veneta, quei comites diventano comiti, cioè sono comandanti di nave. Perché? Questa è un'altra domanda, però. No, è un'altra domanda, il significato e il valore. Allora, fermiamo così. Forse è meglio. Fermate. Sì. Perché poi riprendiamo, questo è un altro problema. Questo però posso rispondere. Un problema. Auf die Frage von Frau Tucci hat der Präsident geantwortet, dass das Problem des Adels mit dem langen Gedächtnis oder mit dem reichen Gedächtnis für Amalfi vor allen Dingen studiert worden, also untersucht worden ist. Und zwar von Ulrich Schwarz, die Arbeit über Amalfi im frühen Mittelalter bis 1100 praktisch, ist in unserer Schriftenreihe in Rom erschienen und gleichzeitig von Del Treppo in einem Buch über das mittelalterliche Amalfi in einem Kapitel. An einer Stelle muss ich ein klein wenig korrigieren, glaube ich, oder ändern. Die vielen Urkunden, die Schwarz ausgewertet hat, stammen alle aus der Zeit vor 1100. Und da kommen noch nicht ganz 10 und 12 Generationen zusammen. Frau Fasoli hat mit Recht darauf hingewiesen, nicht nur, wie Herr Cilento geantwortet hat, im Chronicon Salernitanum findet man eine Reihe von Namen, die dann in diesen Urkunden als Ahnen vorkommen, sondern auch in älteren Urkunden. Sodass also man mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, wie Herr Cilento es getan hat, es handelt sich um keinen einzigen legendarischen oder mythischen Ahn, sondern das sind alles Ahnen, die es wirklich gegeben hat. Das Einzige, was Herrn Schwarz große Schwierigkeiten gemacht hat, füge ich hinzu, dass bei der Häufigkeit der gleichen Namen für verschiedene Personen nicht immer die Genealogie heute noch ganz klar herzustellen ist. Diese Familien haben im Ganzen 7 oder 8 Taufnamen und keine Nachnamen. Und da ist das dann also manchmal ein bisschen schwierig festzustellen, um welchen Oso oder um welchen Manso es sich nun in dieser oder in jener Urkunde handelt und ob das vielleicht einer auch ist, der also in einer anderen Urkunde in einer anderen Reihe vorkommt, weil ein anderer Sohn von ihm der weitere Vorfahr des Schreibers ist. Diese Namensreihen als Definition für den betreffenden Menschen, diese Ahnen stehen praktisch anstelle dessen, was man später einen Familiennamen nennt, kommen vor in ganz normalen Geschäftsurkunden, Kauf, Pacht und so weiter. Und Fräulein Fasoli sagt mit Recht, es gab damals auch wohl schon Familienarchive, obwohl wir davon natürlich nichts haben, wir haben nur geistliche Archive. Und in den Familienarchiven gab es auch genug Schriftliches über die Ahnen, nämlich von diesen Urkunden etc. Herr Cilento hat aber vor allen Dingen darauf hingewiesen, dass dieses Ahnenbewusstsein nicht nur eine Frage des Prestiges oder so ist, sondern ein religiöser Faktor, ein religiöses Element hat. Er weist hin auf den Baum Jesse oder die Wurzel Jesse. Und Fräulein Fasoli hat gleich noch dazu gesagt, dass es auch im Islam, aber vor allen Dingen bei den Langobarden, den Herkunftssagen, also Origo, Longobardorum und so weiter, solche Ahnenreihen gibt, sodass also da mehreres zusammenkommt. Und wenn es erlaubt ist, würde ich noch eins hinzufügen. Ich habe mich verhältnismäßig oft mit Herrn Schwarz über diese Frage unterhalten und ihn gefragt, ob es denn in anderen Städten auch Adel gäbe, der so viele Ahnen hat und vorzeit und nennt. Und dann hat er mir geantwortet, er wisse nur von Gaeta, dass dort 2, 3 und 4 Vorfahren in den Urkunden vorkämen, also weniger als in Amalfi, und sonst kenne er das Phänomen nicht. Quest'ultimo lo dico anche in italiano. Ho parlato varie volte con lo Schwarz sul problema di questi antenati elencati. Per sapere, volevo saperlo io, se in altre città si trovassero anche delle cose analoghe. E lui mi ha detto che lui conosceva soltanto il caso di Gaeta, dove però 2, 3, 4 antenati sono di uso e non più. Cioè Amalfi eccede molto con l'elenco di tanti antenati anche quello che si faceva a Gaeta. Il problema del significato di quel titolo di comites dato a questi amalfitani. Io domando, ma secondo me ho già un convincimento, che quel titolo di comites non può essere tradotto con grafen, ma tradotto in qualche altra maniera per trovare la parola tedesca, perché secondo me quei comites sono dei comandanti di nave come quelli che a Venezia vengono chiamati comito. E c'è una poesia, sbarcai marinaio per bacio e comito per amore, che non è certamente un... No, la conosce, no? E anche si ritrova nella Francesca da Rimini di D'Annunzio. Il comito era il comandante non della nave, ma dell'equipaggio della nave. Anche a Genova, non solo. Ecco. Ora, questi comites sono una dignità marittima, secondo me, non una dignità feudale, no? Posso? Certo. Herr Cilento hatte gesagt, dass im 10. Jahrhundert diese führende Schicht von Amalfi Comites heißen und hatte gesagt, das weist hin auf den sozusagen militärischen Ursprung dieser Führungsschicht in der Stadt. Fräulein Fasoli weist darauf hin, dass in Venedig, und Frau Tucci ergänzt es gleich für Genua, Comito im Singular nicht Graf, sondern Schiffskommandant ist. Und zwar, was sehr wichtig ist, weil wir uns das vielleicht normalerweise nicht vorstellen, der Befehlshaber der Schiffsbesatzung, nicht der Kapitän. Sie fragt oder sagt, ob das nicht in Amalfi, 10. Jahrhundert, besonders bedeutend wegen seiner Seeschiffer, genau dasselbe ist, sodass also diese Komitees von Amalfi nicht militärischen, sondern eben marinaren Ursprungs wären, also ursprünglich Schiffsführer und nicht Ritter. Io devo confermare che il termine comites ad Amalfi si riferisce unicamente a una funzione militare. Dalla tabula di Amalfa, dove come è noto si contengono le consuetudini marittime amalfitane, dove si parla di contratti anche marittimi, il tipo di contratto di partecipazione che si chiama contratto di colonna, in cui i singoli colonnisti si quotavano pro rata, cioè era una quota di partecipazione. Nella tavola di Amalfi, il comandante dell'equipaggio non si chiama, come nella tradizione veneta, Genovese, veronese, si chiama protontino o protontino. Questi comites elencati per la seconda metà del secolo IX sono quelli che il cronista definisce capi della comunità amalfitana come custodi del castrum. Cioè, era una nomina annuale, questi comites erano stati comandanti del castrum amalfitano per ciascuno per un anno, fino a quando poi comincia a crearsi una magistratura diversa, che è quella del prefetturio prefetto, che ha una durata non più annuale, ma che poi si trasforma addirittura in successione ereditaria. Si crea quindi una dinastia. Il significato di questo termine, cioè di uomo d'armi, è nella tradizione bizantina. Tribuni con il titolo di comites sono attestati a Capua, quando era ancora bizantina, a Napoli, che continuò a essere bizantina, i magistri militum sono comites. Cioè, per esempio, il famoso Cesario Console, quello della battaglia di Ostia, no? È un comes, cioè il titolo del consolato non si collega a quella che è l'attività marinare di Amalfi, ma il titolo comitale è legato a questa nascita di Amalfi come castrum, come appunto una... Quindi è un titolo bizantino e non un titolo franco. No, assolutamente. E questo è già importante. Also für Amalfi kann das, was für Genua und Venedig gilt, nicht gelten. Und ich nehme nun gleich das allerletzte vorweg. Es handelt sich hier um einen byzantinischen, nicht nur einen fränkischen Comes. Und der byzantinische Comes ist also ein Magister Militum. Aber selbst ohne diese etymologische Erklärung könnte man aus den Quellen von Amalfi es nachweisen. Es gibt also die Tabula de Amalfa, ein Seerecht, ein amalfitanisches Frühmittelalterlich, wo die Anführer der Schiffsmannschaft Protontinos heißen oder Protontino, während in der Quelle Chronicon Salernitanum, 2. Hälfte 10. Jahrhundert, wo die Komitees von Amalfi in der 2. Hälfte des 9. Jahrhunderts aufgezählt sind, deutlich steht, dass sie die Custodia des Castrum haben, also Burgwächter sind. und zwar von Jahr zu Jahr in der Behütung oder Wache der Burg abwechseln, sodass also sowohl aus den Amalfitaner Quellen als auch aus dem byzantinischen Zusammenhang klar wird, dass diese Komitees ursprünglich eben militärische Leute sind und nicht Schiffsfunktionäre. Man hätte vielleicht noch dazu sagen können, in dem Vortrag hat Herr Cilento sehr nachdrücklich ausgeführt, dass die Adligen in Amalfi sich nicht am Handel beteiligen, sondern Grundbesitzer sind und infolgedessen hätte man sonst annehmen müssen, dass diese Schiffskapitäne sich nach erfolgreichen Generationen auf Grundbesitz zurückgezogen haben und den Handel nur den Nachwachsenden überlassen hätten. Aber das geht also schon zu weit. Io poi ho qualcosa d'altro. Sì, se non ci sono altri. Ci sono altri, però abbiamo anche il tempo e non vogliamo. Va bene. Allora, io avrei da rivolgere una domanda all'amico Cilento. Il Mazzarese ci ha parlato dell'anarchia del Regno di Sicilia al tempo delle lotte fra le fazioni dei Latini e dei Catalani, al tempo della minorità della Regina Maria e dei baroni siciliani che in quel periodo si sono imposti nelle città e le hanno governate e amministrate a proprio vantaggio. Il Regno di Napoli ha attraversato anch'esso un periodo di anarchia piuttosto grave, mi sembra, al tempo della successione della regina Giovanna, no? I Durazzeschi. Ecco, appunto, al tempo dei Durazzeschi. Io domando, quale è stata la posizione dei baroni, del baroni del regno, della parte continentale del regno, nei confronti delle città del regno, non soltanto nei confronti nella capitale, Napoli, ma anche nelle altre città. Si è verificato una situazione analoga a quella siciliana? Domanda piuttosto pesante. No. Herr Mazzarese Fratella hatte am Montag davon gesprochen, wie in der Zeit der Schwäche der Königsherrschaft in Sizilien zwischen Lateinern und Katalanen die Differenzen sich ausgetragen wurden und welche Rolle die Städte dabei spielten. Und Fräulein Fasoli fragt nun, wie es im Festland Königreich Neapel nach dem Tod der Königin Johanna gewesen ist, also zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts, in der Zeit der Durazzeschi, welche Rolle die Barone, welche Rolle die Städte in dieser Zeit von fast herrschender Anarchie oder jedenfalls Herrschaftslosigkeit gespielt haben. La risposta a questo problema che è effettivamente complesso, però è quasi telegrafica, nel senso che nelle continue crisi dinastiche che si susseguono nel regno, a cominciare da quella della successione di Enrico VI e quindi la minorità di Federico II, poi nella conquista, nella crisi seguita alla morte di Federico II dopo il 1250 e poi successivamente nella crisi del Vespro e nella crisi interna fra Angioina e Durazzeschi nella seconda metà del 300, in tutti questi momenti di crisi la feudalità meridionale che era virulenta e che poi si era stratificata prende il sopravvento, cioè nella carenza di un potere centrale che poi oltretutto non era mai eccessivamente forte e finisce per occupare quelle università demaniali ancora sopravvissute, cioè non infeudate. Quindi si determina il fenomeno della feudalizzazione delle città demaniali, una invasione di baroni che appunto usurpano quelle poche città che non erano feudali, che non erano già feudali. Questo è un fenomeno analogo a quello siciliano. Analogo a quello siciliano, ma che depaupera in sostanza il patrimonio di quelle libertà cittadine, perché il governo baronale rispetto al governo del potere centrale monarchico era ancora più nefasto rispetto a quello centrale. Quindi la domanda è importantissima, però le crisi sono molteplici e continue. E allora l'invadenza della feudalità, che è un fenomeno che sta alla base del problema della natura del baronaggio siciliano, come si chiama in generale il baronaggio dell'Italia minore, è precisamente questo del prevalere di fronte alla monarchia. Del resto io ho ricordato questi capitoli di San Martino di Finita, che sono dell'83, 1283, questi capitoli sono veramente, a leggerli questi 47 articoli dei capitoli di San Martino, si capisce che il regno è nelle mani della feudalità ecclesiastica e laica. E quindi veramente anche a Napoli abbiamo un Giovanni senza terra. In questo senso hanno tentato di paragonare questi capitoli alla Magna Carta, ma insomma la feudalità, poi insomma è inutile che vi accenni a quello che è l'ulteriore svolgimento della feudalità meridionale. In den dynastischen Krisen, nicht nur in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, sondern auch schon nach dem Tod Heinrichs VI., Friedrichs II. Und auch nach der sizilischen Vespa 1281, hat der Lehnsadel immer versucht, so viel wie möglich sich durchzusetzen und hat vor allen Dingen, das ist eine glatte Parallele zu dem, was wir über Sizilien gehört hatten, diejenigen Universitatis, um nicht Städte zu sagen, diejenigen Universitatis, die noch zum Demanium, also zum Reichsgut gehörten, in das Lehnssystem einbezogen, das heißt also in sich angeeignet und damit, was da eventuell noch an Autonomie gewesen sein könnte, eben verringert. Herr Cilento weist dann darauf hin, dass auch im Festland Sizilien, also Neapel, der Lehnsadel eine sehr große Rolle gespielt hat und hat wiederholt etwas, was ich vorhin in meiner Zusammenfassung nicht berücksichtigt habe. Die 47 Kapitel von San Martino aus dem Jahr 1283, also bald nach der sizilianischen Vesper, erlassen von Karl von Anjou, die man im Vortrag sagte er fälschlich, jetzt war er etwas gnädiger gegenüber den Leuten, die das getan haben, mit der Magna Carta verglichen hat und eben den König mit Johann ohne Land, der gezwungen war, den Baronen die Freiheiten zu konzedieren. In den 47 Kapiteln von San Martino scheint, ich kenne sie nicht, muss ich zu meiner Schande gestehen, der geistliche und der weltliche Adel dem König ganz wesentliche Rechte abgezwungen zu haben. Ich schreibe sie auf. Ich habe jetzt Fräulein Bocchi, Frau Tombetti und dann Herrn Dickerhoff. Io vorrei portare l'attenzione un momento su un punto che mi pare fondamentale nella storia dei centri sociali urbani delle città del Regno, dell'Italia meridionale, e che credo forse sia un punto chiave anche per la storia del problema meridionale, quello che noi chiamiamo questione meridionale, credo che sia un punto fondamentale. Cioè, Cilento ci ha illustrato come, infine, durante l'ultimo periodo dei principati e delle altre unità statuali dell'Italia meridionale, e anche in età normanna, in un certo senso i centri urbani avevano avuto, diciamo pure i centri urbani, quelli che si dedicavano alla distribuzione, alla produzione, questo, cioè artigiani, quelli che di solito ha indicato come mediocres, avevano avuto la possibilità di una qualche espansione e di muovere qualche passo nei confronti, per esempio, anche di un'autonomia che non era certo politica, ma che era amministrativa in un certo senso, e soprattutto, mi pare, erano riusciti a conquistarsi dei mercati nell'area mediterranea, che era poi tutto sommato lo strumento attraverso il quale questo ceto sociale aveva la possibilità di consolidarsi e affermarsi anche poi politicamente all'interno delle città, all'interno del regno. Quindi quello che il Duca Sergio a Napoli o anche gli altri negli altri momenti, anche in età normanna, per credi altri, hanno concesso, erano tutto sommato il segno di come questo ceto sociale urbano poco per volta andava lentamente, certamente perché i processi di trasformazione della società sono sempre molto lenti, andava conquistandosi all'interno delle strutture monarchiche. Ecco, poi mi pare che qui è il punto in cui scatta il nodo di cui ho parlato prima. Mineta Sveva, con la riforma delle dogane, con la fortissima pressione fiscale che viene svolta dalla monarchia, e ancor più poi in età angioina, in età aragonese, ma è questo il momento che mi interessa in questo momento chiarire, se ho ben interpretato, cioè nel momento in cui, in età sveva per esempio, nel momento in cui nell'Italia settentrionale i ceti urbani produttivi, diciamo, cioè i mercanti, cioè gli imprenditori, acquistano forza politica, peso economico e forza politica, nelle città dell'Italia meridionale questi vanno invece restringendo la loro capacità di incidere nelle decisioni politiche e la vanno addirittura perdendo. Ecco, io mi domando allora a questo punto, che è il momento in cui in Italia meridionale, occidente, arriva l'aggressione mercantile di pisani, di genovesi, di catalani, che sono quelli che hanno acquistato la forza politica nelle loro città, che cosa trovano? Perché riescono ad acquistare questi mercati? Li acquistano perché manca nell'Italia meridionale una possibilità e una capacità da parte di questi ceti che sono stati repressi dalla monarchia sveva soprattutto, perché questo è il momento, peggiorerà la situazione dopo, appunto non sono riusciti loro a guadagnare quei mercati né ad espanderli fuori. Ecco, allora io vi volevo sentire da Cilento se la pressione mercantile delle città marinare, o così diciamo pure delle città del nord o delle altre città autonome, è stata una causa della crisi delle città del sud, o è stata piuttosto una conseguenza della crisi delle città del sud? Großen Unterschiede zwischen Süden und Norden des Landes zeigen sich vor allen Dingen darin, dass in der Zeit, in der im Norden des Landes die Bürger aufgrund ihrer wirtschaftlichen Unternehmungslust, Handel, Produktion und so weiter immer mehr politische Rechte gewinnen, die Städter im Süden immer weniger politische Rechte haben und offensichtlich auch weniger Gelegenheit, muss versuchen, das neutral auszudrücken, zu Unternehmertum, das heißt zu Handel und dergleichen. Denn in dieser Zeit sind es die Seestädte, die italienischen, vor allen Dingen Genua, Venedig und Pisa, die den Handel in dem südlichen Reich ganz und gar in ihre Hände bekommen. Wir haben das ja auch für Sizilien schon gehört. Frage von Frau Fräulein Pochi ist, ist die Tatsache, dass die Norditaliener, die Bewohner der Seestädte im Königreich, diese Handelswirtschaftsposition einnehmen, ein Grund für den Rückgang der Städte oder ist umgekehrt die Schwäche der städtischen Bevölkerung, die von den Staufern besonders, vorher schon von den Normannen, unterdrückt worden ist, der Grund dafür, dass die Expansion der Venezianer, Genuesen, Pisaner im südlichen Reich stattfinden konnte. So hat sie es am Schluss überspitzt ausgedrückt. Ich kann nicht ganz alles wiederholen, was sie gesagt hat. In Italia è proibito parlare male di Garibaldi, ma a Garibaldi andò bene perché la sua spedizione non probabilmente poteva. Andò bene perché il regno delle due Sicilie era politicamente isolato sul piano europeo. E ai pisani, e ai genovesi, ai savonesi, ai veneziani andò bene perché, come ha detto la Bocchi, con cui sono concordo, perché nelle città del sud si era già prodotto un vuoto, una crisi, che era determinata, come ha detto lei stessa, dalla pressione fiscale, da questa limitazione di libertà. Però non va dimenticata l'aggressività di questi mercanti, perché sui porti pugliesi Venezia operò una serie di interventi che la portarono di fatto alla fine del 400 a essere padrona di tutti i porti pugliesi. Non si deve dimenticare quello che ho detto. Nel 1135 e nel 1137 questi pisani, non so come abbiano fatto, ma con la loro flotta attaccano Amalfi. Ora voi Amalfi forse la conoscete tutti, ma Amalfi è collocata, Amalfi, Scala, Ravello, che sono le località che i pisani distruggono, aggrediscono, e in situazioni impervia, come abbiano fatto, ripeto, per me è un mistero, però riescono a fare violenze, a fare distruzioni, quindi c'è anche un'aggressività di mercanti guerrieri, come bisogna pensare che siano questi genovesi, questi pisani, questi Guglielmi Imbriaci che facevano così le macchine da guerra speciali durante la crociata. E voglio dire che certamente la legge economica che invoca la collega Bocchi, del vuoto economico che viene necessariamente occupato quando si produce, è una legge che funziona, però bisogna anche dire che c'è d'altro canto anche questa espansione violenta, espansione al tempo per esempio di Roberto D'Angiò, chi studia la cultura napoletana, e c'è un giovane che lo fa molto bene, e al tempo di Roberto D'Angiò noi vediamo una Napoli in cui si concentrano Boccaccio, Pesarca va a fare l'esame per laurearsi poeta, c'è anche Giotto, sono in questa corte. Però il regno soffre proprio perché è lasciato in potere dei mercanti stranieri. I fiorentini non erano soltanto questi tre che ho nominato. C'erano gli acciaioli. Ma c'erano gli acciaioli, c'erano i banchieri fiorentini. E la dogana delle pecore di Puglia, che era una delle risorse del regno, era precisamente nelle mani, era stata venduta, insomma. Forse spieghiamo che cos'era la dogana delle pecore non italiane. Beh, la dogana delle pecore è quella che, diciamo, si produceva al momento della transumanza dai pascoli dell'Abruzzo verso le terre pugliesi e viceversa, nei due giorni di San Michele di ogni anno, no? A maggio e a settembre. No, perché noi lo sappiamo, per gli sì, altri forse è un po' meno chiaro. Voglio dire, insomma, che la penetrazione nel mercato meridionale è virulenta, è violenta, quindi è chiaro che le risorse, cioè, non c'è competizione, non c'è capacità di quella legge che porta a oggi stesso, per esempio, alla invasione delle multinazionali, no? Come diceva la Bocca. Grazie. Mit einem Satz gesagt, wenn Fräulein Bocki hingewiesen hat auf das Gesetz, dass wo ein Vakuum ist, dass da etwas hineinströmt, dann gilt das sicher für die süditalienischen Städte und die norditalienischen Kaufleute, die dort eindringen. Denn nicht das Eindringen der Kaufleute ist ein Grund für den Niedergang dieser süditalienischen Städte in Bezug auf politische Macht und wirtschaftliches Unternehmertum. Aber man müsste dann sagen, diese norditalienischen Kaufleute haben dem Gesetz noch kräftig nachgeholfen, indem sie also sich recht aggressiv verhalten haben. Und Herr Giletto weist noch einmal hin auf die Tatsache, dass also 35, 37 die Pisaner Amalfi und die umliegenden Ortschaften erobert und zerstört haben, kam im Vortrag vor von mir übergangen und sagt noch einmal, es sei ihm heute noch unerklärlich, wie die Pisaner das geschafft haben. Wer Amalfi kennt und die Amalfitaner Küste mit den Nachbarorten, weiß wirklich nicht, wie man vom Schiff her diesen Orten beikommen soll, die weder ein Vorland, Strand oder sonst etwas, noch ein Hinterland haben, denn hinten ist ein unwegsames Gebirge und es nur auf der Seeseite der Abhänge befinden sich diese Ortschaften. Eigentlich müssten sie uneroberbar gewesen sein, aber die Pisaner konnten das. Er weist dann darauf hin, dass in Zeiten etwa Roberts des Weisen, also erste Hälfte 14. Jahrhundert, die Norditaliener nicht nur als Händler im Reich tätig waren, sondern dass Boccaccio, Petrarca, Giotto sich in Neapel aufgehalten haben, das eine reiche Hauptstadt war, aber eben auch Florentiner, also nicht nur Seestädter, sind im Reich also an wichtigen Stellen tätig. Die Dogana delle Pecore, der Schafzoll, wäre wörtlich zu übersetzen, das heißt also die Gebühr, die beim Verstellen des Viehs im Mai und im September ins Gebirge und aus dem Gebirge zurück in die Ebene fällig war, ist zur Zeit Roberts des Weisen in der Hand von Florentinern. Auf die Frage von Frau Bocki wäre also nur zu antworten, es ist keine Alternative, sondern beides, sowohl die Schwäche der süditalienischen Städte hat das Eindringen der norditalienischen Kaufleute ermöglicht, aber das Eindringen und Verhalten der Kaufleute hat die Städte noch weiterhin geschwächt. Adesso la signora Formenti. Vorrei parlare un attimo su un problema di storia feudale. Cioè, vorrei chiedere, se noi, così abbiamo presente un attimo gli studi della Fasola e del Nardarese Pandella relativi alla feudalità siciliana, in età non vanno svelta, e a quel punto della Jameson sulla feudalità in età normale dell'Italia meridionale, vediamo che ci troviamo di fronte a due fenomeni molto diversi, cioè una grande feudalità quasi completamente soggetta in Sicilia e un corrispondente ceto che invece resta un vivacissimo interlocutore del re nel meridione. Tanto è vero che mi sembra che leggendo alcune costituzioni federiciane relative proprio alla feudalità si debba avere presente, piuttosto che non la Sicilia, dove questa feudalità sembra molto dominante, l'Italia meridionale. Ecco, io vorrei chiedere se a questa diversità di due mondi che appartengono allo stesso regno, ma che sono così diversi anche in età normale, corrisponde una diversa evoluzione, potenziale di far corrispondere, almeno per questa età, una diversa evoluzione sociale nelle città. Frau Trombetti, weist darauf hin, dass in Bezug auf das Lehnswesen im Vereinigten Königreich Sizilien in staufischer Zeit etwa deutlich ist, dass die großen Lehnsträger in Sizilien der Krone praktisch unterworfen sind, also sich nicht sehr rühren können, sehr viel selbstständiger geblieben sind, sehr viel als im einen Falle Untertanen des Königs, so in Sizilien, auf dem Festland Partner oder Gegner des Königs. Und sie fragt, ob man für die Städte in den beiden Teilen des Reiches, insofern im Festlandteil, Ähnliches feststellt. In età normanna. Sì. Ah, è una domanda un po' imbarazzante, perché non ho presente gli studi della signorina Fasoli, ha pubblicato moltissimo, ma non sempre le cose sono disponibili. Questa particolare differenza tra la feudalità, anche la Jameson, io ho letto i lavori della Jameson, ma non mi pare che si accenti, vorrei sentire anche Mazzaresa Fardella, si possa accentuare troppo la differenza tra la feudalità dell'Italia meridionale e la feudalità siciliana. Una ragione ci sarebbe, nel senso che l'Italia meridionale è di tradizione longobarda, mentre la Sicilia è di tradizione araba. E per quanto riguarda un preteso feudalesimo longobardo, che sarebbe, diciamo, precedente al feudalesimo normanno, io sono assolutamente certo che le pochissime tracce di una feudalità longobarda, cioè di quel mos francorum che Erchemperto, un cronista del IX secolo, dice immesso da Ludovico II nell'Italia meridionale, questo non era assolutamente feudalesimo. Il mondo longobardo, principati longobardi di Benevento, Salerno, non conoscono il fenomeno del feudalesimo, il quale si articola in tanti aspetti. Il feudalesimo lo introducono soltanto i normanni, nella forma piena e definitiva. Che poi i normanni in qualche maniera abbiano, come dire, trovato la situazione disponibile a introdurre il feudalesimo, questo va collegata alla preesistenza di nuclei politici differenti e distinti, e questo può avere favorito la emissione del feudalesimo normanno. In Sicilia c'è una tradizione diversa, una tradizione greca prima e poi araba. Qualche studioso, per esempio, ha detto che la exousia bizantina, cioè la exousia, ossia si può tradurre come la l'esenzione bizantina, nel senso che chi doveva prestare il servizio militare poteva essere exemptus pagando, questa exousia di tradizione bizantina potrebbe avere caratterizzato un tipo di feudalesimo importato sempre dai normanni, ma che si modifica in Sicilia. Io però non ho studiato il problema e vorrei che la Fasoli, la professoressa Fasoli... E Mazzaresa, che è nascosto lì dietro... Non c'è. Quindi, no, perché ecco, non stava molto bene. Il problema è questo, insomma. Die Antwort auf die sehr pointiert gestellte Frage kann Herr Cilento deshalb nicht geben, weil er die so pointierten Unterschiede zwischen dem Lehnswesen auf der Insel Sizilien und dem Festland sieht. Die Grundlagen für das von den Normannen erst eingeführte Lehnswesen sind zwar auf dem Festland langobardisch, auf der Insel griechisch-arabisch, insoweit also sehr verschieden. Und er hat als Möglichkeit angedeutet, dass die im Byzantinischen Reich große Teile des südlichen Königreichs gehören ja bis weit ins 11. Jahrhundert hinein zu Byzanz, die im Byzantinischen Reich übliche Exousia, die Befreiung der Militärdienstleistenden von der Steuerpflicht, dass die zu einer Art von besonderer Stellung des Adels oder der Lehnsleute geführt haben kann. Aber im Ganzen sind wir leider auf Professor Mazzarese Fardella angewiesen, dem es heute leider nicht gut geht und der deshalb auch nicht mehr hier ist. Er war heute früh beim Vortrag noch anwesend, aber hat uns leider verlassen. Herr Dickhoff. Ja, meine Frage ist zum Teil, sozusagen zum innenpolitischen oder innerkommunalen Teil von der Frage von Bobski vorweggenommen. Sie bezieht sich jetzt auf den Punkt 11b, die Frage, wie weit die auswärtigen Handelsstädte nach Süditalien ins Regnum eindringen. Und ich hätte gerne eine Erklärung dazu, ob Sie da eine Kontinuität des Eindringens finden oder eine Diskontinuität. Man hat etwa den Staat Friedrichs II. Etwas anachronistisch einen geschlossenen Handelsstaat genannt. Hat Gregor IX dann geschrieben, in diesem Staat kann keiner ein anderes Bein berühren ohne deinen ausdrücklichen Willen. Es war eine sehr restriktive Fremdenpolitik. Der Handel war weitgehend stark kontrolliert, während umgekehrt Karl von Anjou seine Herrschaft antrat mit einem Bündel von Schulden. Villani schreibt, wenn er nicht das Regnum erobert hätte, wenn er nicht abgezogen wäre aus Rom, das Regnum zu erobern, hätte man ihn in Rom in Schuldturm geworfen, weil er verschuldet war. Er musste also seine Finanziers, die ihm auch militärisch geholfen haben, mit wirtschaftlichen Privilegien bezahlen. Ein Vorgang, der ja etwa analog in Konstantinopel gegenüber der Venedig stattgefunden hatte. Also meine Frage, sehen Sie eine Kontinuität der königlichen Wirtschaftspolitik und wie weit hat Kontinuität oder Diskontinuität verschiedene Verfahren eindringen oder nicht eindringen der Seehandelsstädte, vor allem Pisa, Genua, Venedig, aber dann auch Florenz, vor allem als guelfische Kapitalstadt begünstigt. Il signor Vito domanda la parola non riferita come parola insomma se lei vedrebbe una continuità nella politica mercantile da parte dei sovrani o se ci sono delle discontinuità e lui c'è una continuità che poi ha come conseguenza l'afflusso appunto delle forze, dei poteri mercantili settentrionali nelle città meridionali. E lui ricorda a quello che dice Giovanni Villani che Carlo D'Andrò era talmente indebitato che se non fosse riuscito a insediarsi la spedizione fu finanziata dal mercato fiorentino. Sì. No, vorrei rispondere che recentemente, qualche anno fa, è stato pubblicato un libro di un professore israelita, Abulafia si chiama, il quale ha scritto un libro intitolato Tutti, Tutto Italy, le due Italie. Precedentemente noi ritenevamo che la consegna, per così dire, dell'economia del regno in mani esterne al regno di Napoli fosse stata avviata dalla Gioini. Come giustamente lei ricorda, la spedizione di Carlo d'Angiò fu finanziata dai fiorentini e il guelfismo angioino si giovò sottoscrivendo degli impegni proprio per sanare i debiti che assumeva nei confronti dei mercanti fiorentini, cioè quindi alla base proprio al momento proprio della occupazione angioina sarebbe nata questa immissione di mercanti esterni. Però il libro di Abulafia retrodata questa serie di vicende, perché studia soprattutto il regno di Guglielmo I e di Guglielmo II, in cui abbiamo sia nel 1154 sia nel 74 documenti di impegno con mercanti di Pisa e soprattutto di Savona e di Genova, in cui appunto vengono attribuiti a questi mercanti privilegi nei porti del sud, soprattutto a Messina. Quindi il fenomeno non è nuovo. Certamente cambia l'atteggiamento fra i sovrani normanni e poi quelli svevi e da ultimo quelli angioini. Io non saprei parlare di continuità o discontinuità. Certamente con Federico II, per esempio, c'è un tentativo di ravvivare l'economia del regno, sempre ai fini fiscali, e quindi però non c'è un rinnegamento totale della politica economica normanna. La situazione si aggrava, questo sì, con soprattutto a favore dei fiorentini e dei veneziani al tempo degli angioini. Ecco, quindi il problema della continuità del regno delle due Sicilie, come si chiamava, o meglio del regno Sicilia, come si chiamava, è un problema che si porta ad affermare una differenziazione di sfumature, però in sostanza c'è sempre questa necessità di privilegiare i mercati stranieri rispetto a quelli regnicoli. Va bene? Cilento sagt, es sei schwierig, ich drehe es wieder umfang mit dem letzten an, von Kontinuität oder Diskontinuität zu sprechen in einem, sage ich jetzt mit meinen Worten, so wenig kontinuierlichen Königreich wie dem Königreich Sizilien. Sicher sei aber immer die Notwendigkeit gewesen, Fremde auf den einheimischen Märkten zu begünstigen. Und selbst Friedrich II. Wirtschaftspolitik, die zeitweilig ja so aussieht, als ob er das Reich gegenüber auswärtigen Kaufleuten schließen wollte, ist doch im Wesentlichen nicht verschieden von der normannischen. Cilento hat, da Sie von Karl von Anjou sprachen, gesagt, sicher fange erst mit Karl von Anjou die ganz starke Verwendung von Florentinern und Venezianern oder Begünstigung von Florentinern und Venezianern an. Aber schon in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, wie Abulafia in seinem Buch The Two Italies gezeigt hat, gibt es also Privilegierung von Pisa, Savona, Genua in Häfen wie Messina und anderen, sodass also das übrig bleibt, was für die ganze Südfrage immer wieder nötig ist. Es muss auf solche Fragen hin, die gestellt werden müssen, differenziert, nuanciert geantwortet werden, so wenig wie auf die Frage von Frau Bocchi, so wenig kann er auf die Frage von Herrn Dickerhoff sagen, ja, das eine ja, das andere nein, sondern es ist komplizierter und ich hoffe, ich habe das einigermaßen wiedergeben können. Frau Fasoli oder erst Herr Nobili? Ja, bitte. Se volevo sapere qualcosa di più preciso, volevo sapere qualcosa di più preciso circa le brave o male consuetudini delle città. Vorrei sapere qualcosa di più? Circa le male o brave consuetudini delle città, che erano state per esempio abolite da Lucero. Nobili fragt nach den brave und male consuetudines der Städte, die von Burger II. Abgeschafft werden. Ancora? Cioè, a chi si attribuisce in particolare, a chi le città attribuiscono la responsabilità della imposizione di queste consuetudini malvagie o brave? E a quale epoca si può risalire? Fanno risalire l'imposizione di queste cattive costruzioni? Er fragt dann, woher diese male consuetudines gekommen sind und wie man sie etwa datieren kann. L'aggettivo male, cattive consuetudini è naturalmente da parte del re, cioè era il re che le riteneva male, non i cittadini. Le consideravano buone. I cittadini difendevano le loro consuetudini. Era dall'altra parte che queste consuetudini erano considerate come la negazione della concezione della sovranità normanna. Cioè i normanni ritenevano, poi Falcone Beneventano che su questa espressione, ma comunque anche altrove si trova i boni usus, per esempio, i boni usus. Ma i boni usus erano buoni per le città e mali per la monarchia. Perché in questo senso. Ah, perché in Toscana si chiede un po', cioè si sono citate le cattive, le buone consuetudini, ad esempio, dell'età di Ugo il Grande Marchese, poi le malvagie nel libro del Marchese successivo, sì, sì. A seconda del mutamento del regime nazionale. Gli aggettivi sono un'opinione. Abbiamo capito la Roberta. Sì, sì, sì, no. Die Frage ist verhältnismäßig schnell beantwortet. Male, brave hießen diese Consuetudines auf der königlichen Seite, weil die Freiheit der Städte dem König unrecht war. Die Städte selber waren mit diesen Consuetudines einverstanden und mussten sie eben unfreiwillig abschaffen. Herr Nobili hat zur Begründung seiner Frage dann hinzugefügt, dass in der Toskana es man eben durchaus unterscheidet zwischen den Bonne Consuetudines, die auf einen Markgrafen zurückgehen, und den Male Consuetudines, die der Nachfolger eingeführt hat, sodass dort also dieses Adjektiv, das ja in reiner Wert, eine Wertung darstellt, innerhalb der, also vom Gleichen auf das Gleiche, auf den gleichen Zusammenhang angewendet wird, während es hier in Sizilien darum oder im Königreich, im normannischen Königreich darum ging, dass die beiden Gegenseiten, die einen das gut und die anderen schlecht fanden, was wohl überall vorkommt. La signorina Fasoli. Allora, io vorrei fare una piccola integrazione alla risposta a Nobili. Noi centro-settentrionali, quando sentiamo parlare di consuetudini per le città del sud, facciamo un po' fatica ad ambientarci. Voi sapete, no, non lo sapete, ma la storia della Sicilia fa parte della mia biografia perché ho insegnato per 9 anni a Catania, ero catalana, non latina, va bene, ma ho fatto fatica a entrare in un certo ordine di idee. La cosa che mi ha sorpreso è quando io sono andata a cercare gli statuti delle corporazioni, hai voglia! Sono andata a cercare gli statuti cittadini e mi sono trovata quei capitoli che passano da una città all'altra. Messina adotta gli statuti di Trapani o viceversa, Lentini quelli di Catania, ma il contenuto di questi capitoli che sono presi da fuori non sono consuetudini relative all'amministrazione della città, ma sono consuetudini che si riferiscono al diritto privato. Ora, anche nel diritto privato si possono insinuare delle consuetudini che il re considera male, ma siamo sempre nel campo del diritto privato. Questa è la cosa che io dovevo dire per nobili. Poi ho una parte relativa al commercio e allora la distinguiamo. Sì. Fasoli hat zu der Frage von Herrn Nobili hinzufügen wollen, und das ist wohl für uns etwas weniger aktuell, weil wir uns weniger mit italienischen Statuten beschäftigen, und trotzdem sehr wichtig. Frau Fasoli hat 9 Jahre in Catania einen Lehrstuhl gehabt und natürlich versucht, sich dort in die Geschichte einzuarbeiten. Und das Erste, was sie gesucht hat, waren Statuten von Zünften, und es gibt keine. Und dann jedenfalls Statuten der Städte, die gibt es auch nicht. Und hat aber dann das gefunden, was so ähnlich ist, das heißt die Kapitel, die von Stadt zu Stadt übernommen werden. Wir haben neulich davon gesprochen, im Zusammenhang mit dem schönen deutschen Ausdruck Stadtrechtsfamilien, dass also mehrere Städte die gleichen Consuetudines haben können. Und das Entscheidende, was sie hervorheben wollte, ist, dass es sich dabei um Privatrecht handelt. Das heißt nicht um Regelungen der Stadtverwaltung, Stadtverfassung, also das, was man cum grano salis mit viel Anachronismus öffentliches Recht nennen könnte und was also in Stadtstatuten nord von mittel- und norditalienischen Städten sehr breiten Raum einnimmt, außer dem Strafrecht und Privatrecht, sondern nur eben privatrechtliche Dinge, die natürlich auch dem König unlieb und male und brave erschienen sein können. Sì. Sì. Sì. Volevo dire che è interessante questa considerazione della professoressa relativa alle consuetudini, ai capitolati e ai capitoli dell'Italia meridionale, delle città dell'Italia meridionale, in cui i problemi sono quelli relativi al diritto privato, alle consuetudini private. Perché le più antiche raccolte di consuetudini locali nell'Italia settentrionale, prendiamo per esempio le consuetudini spagnole, certo, o altre parti che si trovano all'interno dei statuti più maturi, in cui è ben presente tutta la l'elaborazione giuridica relativa all'attività politica, all'attività cittadina, sono proprio anche quelle solo ed esclusivamente delle consuetudini che riguardano il diritto privato. Quindi io credo, questo per aggiungere, come il per dire come è un passaggio nel processo di trasformazione delle città questo elemento relativo alla riflessione sul diritto e alla raccolta del diritto privato. Ecco, il fatto che poi manchi nell'Italia meridionale un'elaborazione invece successiva come avviene è un segno di queste diversità che abbiamo notato in questo momento. Postilla alla postilla. Sì, no, e poi traduce. No, e poi traduce. L'osservazione della Bocchi sull'osservazione che ho fatto io è molto interessante, anche perché nei più antichi diplomi imperiali alle città italiane c'è una approvazione delle consuetudini. Il sovrano intendeva provare consuetudini di diritto privato, ma i cittadini in quelle consuetudini di diritto privato inserivano quelle che poi in Italia furono chiamate male consuetudini. È attraverso alle norme di diritto privato, ai giudizi, alle azioni giuridiche impostate su queste norme di diritto privato, che comincia effettivamente a cominciano a svilupparsi delle forme di autonomia. Quindi le consuetudini, buone o cattive, sono veramente molto importanti. Noi qui stiamo giocando a palla. Ein Hockey hinzugefügt, dass die ältesten erhaltenen Konsuetudini aus Oberitalien, etwa die von Mailand, sonst sind sie auch oft in den späteren Statuten als Teil erhalten oder erkennbar, auch vorwiegend bzw. ausschließlich im Privatrecht zum Inhalt haben, dass also erst in einem späteren Stadium die verfassungs- oder öffentlich-rechtlichen Bestimmungen mit hineinkommen. Und Fräulein Fasoli ergänzt das, indem sie noch einen Schritt weiter zurückgeht, aber nur scheinbar, indem sie sagt, in den Kaiserurkunden, in denen die also die oberitalienischen Städte erhalten, werden die Consuetudines bestätigt und natürlich sei das auch ganz im Sinne des Kaisers nur das Privatrecht, was bestätigt wird. Es sei aber sehr naheliegend gewesen, nun in die bereits bestätigten Consuetudines auch politische, juristische, also öffentlich-rechtliche Dinge aufzunehmen. Und das habe mit dazu geführt, dass die Statuten später eben der oberitalienischen Städte eben nicht nur mehr Privatrecht enthalten und damit einen falschen Namen tragen. Denn Consuetudo dürfte sich und sollte sich eigentlich nur auf Privatrecht beziehen. Signorina Fasoli, tocca a lei a continuare adesso. Sì, tocca a me continuare perché evidentemente le meridionaliste siamo noi, visto che Mazzarese se n'è andato. Dunque, io volevo tornare all'argomento della debolezza dell'economia dell'Italia meridionale. Ma io vorrei fare una considerazione, che le città, o per meglio dire, gli insediamenti demograficamente e urbanisticamente consistenti sono quasi tutti, salvo Benevento, sono tutti sulla costa. E dietro, e tanto più in Sicilia, le città importanti sono tutte sulla costa. Queste città non hanno dietro di sé una retroterra che sia capace di assorbire prodotti artigianali o industriali. È un retroterra che dà prodotti agricoli, che devono per forza essere esportati. È la mancanza di un retroterra capace di assorbire prodotti industriali e anche di consumare i prodotti agricoli che determina certi aspetti dell'economia meridionale. Quando noi pensiamo a Venezia e a Genova e a Pisa, Venezia e Genova hanno un retroterra molto più vasto di quello che non abbia Pisa, perché Pisa in realtà ha la Toscana, Genova ha la pianura padana e poi penetra anche in Francia e poi punta verso la Spagna, mentre Venezia ha dietro di sé tutto il mercato tedesco. Quindi hanno delle aree, dei retroterra veramente molto diversi fra nord e sud, e si spiega come ci sia uno sviluppo artigianale di esportazione al nord, non ci sia al sud. Questo mi pare che sia una considerazione da tenere sempre presente. E poi vorrei ricordare la mentalità coloniale di Venezia, di Pisa e di Genova. Una mentalità coloniale che si è, diciamo, rafforzata quando Venezia, Genova e anche Pisa sono entrati in rapporto con la Terra Santa e con gli stati crociati, che avevano bisogno dell'appoggio della flotta delle città marinare italiane, avevano bisogno di rifornimenti dall'Italia e era molto comodo prenderli in Sicilia, il grano e il vino e l'olio, per portarli in Terra Santa. Ma questa mentalità coloniale che è stata sviluppata nella partecipazione delle azioni di sostegno agli stati crociati viene poi trasferita nell'Italia meridionale quando gli stati crociati in pratica sono perduti. Il discorso è molto ampio, però non dobbiamo mai dimenticare che la situazione generale è questa. D'accordo? Frau Fasoli ist noch einmal zurückgekommen auf die wirtschaftliche Schwäche des südlichen Königreichs und sagt, dass auffallenderweise, oder das ganz eindeutig sei, alle Städte von einiger Bedeutung, mit Ausnahme von Benevent, sind Küstenstädte und angewiesen auf, wären angewiesen auf Seehandel, da sie kein Hinterland haben, das also in größerem Umfang Gewerbeprodukte abnehmen kann, sondern allenfalls ein Hinterland, das Landwirtschaftsprodukte produziert, die dann ausgeführt werden können. Sie hat verglichen, nun nicht in dem engen Sinn des Wortes Hinterland, das also, sagen wir, den Umkreis der nächsten 20 bis 50 Kilometer meint, sondern in einem ganz breiten Sinn, Venedig, Pisa, Genua, mit den Möglichkeiten von Süditalien und sagt, zu Venedig gehört das ganze Deutschland der Zeit als Markt, zu Genua gehört die ganze oberitalienische Tiefebene, soweit sie nicht venezianisch ist, also venezianischer Markt ist, und ein Teil von Frankreich, während Pisa immerhin die Toskana hat, aber eben nicht so viel wie die anderen. Ein vergleichbares Ausgreifen aufs Land ist für die süditalienischen Seestädte nicht möglich. Man müsste also, wenn man es ein bisschen hart ausdrücken wollte, sagen, diese süditalienischen Seestädte sitzen in einer Sackgasse, von wo aus es nicht weiterführt, weshalb sie also notwendig mit dem immer weiteren Ausgreifen der anderen zur Stagnation verurteilt sind. Frau Fasoli weist dann darauf hin, dass es einen gewissen Kolonialgeist oder eine Kolonialmentalität der norditalienischen Seestädte, vor allen Dingen Pisa, Venedig, Genua gibt, die also besonders in den Kreuzfahrerstaaten sich eben wirklich wie Kolonialherren gebärden können, da sie und ihre Lieferungen für die Kreuzansässigen völlig unentbehrlich sind. Und sie sagt, dass nach der Beendigung des, teils schon vorher, aber vor allen Dingen nach dem Verlassen des Heiligen Landes und der anderen Kreuzfahrerstaaten durch Kreuzfahrer und italienische Seehändler Süditalien ein bisschen die Rolle der Pisaner, Genueser und Venezianer Kolonien übernommen hat und der Kolonialgeist dieser oder Kolonisatorengeist dieser Seehändler sich dort ausgeprägt hat. Auf die Weise also der weitere Niedergang, die weitere Schwächung des Süditaliens im 14. Jahrhundert oder seit dem 14. Jahrhundert. Hier ist alles. Posso buttare un'altra palla? Sì, ben volentieri. Nel momento non ho nessuna domanda. No, adesso vediamo su che cosa. Vabbè, allora forse posso andare un momento avanti io. L'osservazione che io volevo fare, sempre relativa alle differenze. No, va bene. Diceva qualcosa il professor Haverkamp? Va bene. Le differenze che noi abbiamo fra la Sicilia e l'Italia e il meridione d'Italia, fra il regno di Sicilia e il regno di Napoli, lo vediamo anche nella sorte diversa del Parlamento. Veniamo un po' avanti. Il Parlamento siciliano risente molto delle esperienze degli parlamentari degli aragonesi con le Cortes di Aragona e con le Cortes di Catalogna. C'è questa influenza. Il Parlamento siciliano ha una lunga storia perché arriva fino al XVIII secolo. Il Parlamento napoletano ha una vita brevissima. Abbiamo visto, come ci ha detto l'altro Mazzarese Fardella, che la rappresentanza delle città nel Parlamento in realtà è assunta dai baroni. Nel Parlamento del Regno di Napoli, che di riunioni ne fate pochissime, no? Il Parlamento, che si è estinto subito, la situazione in realtà era stata ai suoi inizi analoga. Anche la rappresentanza delle città del regno era assunta dalla feudalità, però i sovrani sono riusciti a stroncare questo Parlamento molto rapidamente. Anche questo è una differenza fra le due parti, i due tronconi. Comunque viva la tradizione del Parlamento anche in epoca aragonese. Sì, ma dopo l'età aragonese finisce, mentre invece in Italia meridionale continua. Sicilia. Continua fino alla fine. Ecco, va bene, io ho finito. Fräulein Fasoni weist noch auf einen Unterschied hin, der zwischen Sizilien und dem südlichen Italien, also die Sizilianer würden sagen im Kontinent, besteht in Bezug auf das Parlament. Das sizilische Parlament ist unter den aragonesischen Herrschern, also 1581, stark orientiert, wir haben ja schon zusammen am Montagnachmittag davon gesprochen, an den Cortes von Aragon und Katalonien. Und es hat bestanden bis ins 18. Jahrhundert, während das Parlament des Festlandkönigreichs Neapel nur sehr kurz bestanden hat. In Bezug auf die Städte ist es so, dass in beiden der Adel praktisch die Städte mitvertreten hat, wie wir ja schon besprochen haben. Aber dem König ist es in Sizilien nicht gelungen, in Neapel gelungen, die Mitsprache von Parlament und Ähnlichem auf stärkste Weise zu beschränken. Adesso. Una domanda di chiarimento, forse dipende dal fatto che non ho capito bene. Cioè, la situazione di Amalfi, a me pare di aver capito che c'è una aristocrazia fondiaria, di ascendenza militare, fondiaria. Accanto a questa un ceto di mercanti che sono considerati mediocres da un lato e dall'altro sono gli artefici della prosperità mercantile della città. Non lo so, io rispondo per cercare di capire. Ecco, questo fatto mi ha un po' colpito perché sembrerebbe da un lato che ci fosse una aristocrazia, se così è da intendersi, depositaria di un certo potere politico all'interno della città, senza che quei ceti che ne costituiscono forse l'ossatura economica, questo immagino che sia un punto di discussione, abbiano il riconoscimento di ordine primo nell'assetto politico della città. E lo chiedo perché qualcosa di analogo, che pure non so spiegarmi, mi sembra che capiti anche nelle città lombarde. Cioè, mi colpisce che capiti in una città mercantile come Amalfi, così proiettata. Un'altra cosa che ugualmente non so se ho capito bene. Dopo questo discorso sull'aristocrazia e sui mercanti, mi pare di aver capito che c'è stato un accenno ad una oligarchia che sarebbe cosa ancora diversa da questa aristocrazia fondiaria, oppure si trattava della stessa categoria di persone? Questa è la mia domanda. La Frage ist hinsichtlich Amalfi, wenn dort also die führende Schicht in der Stadt grundbesitzender Adel ist und die eigentlich aktiven Leute, die Mediocres, wie kommt es, dass die also in keiner Weise an der Stadtführung beteiligt gewesen zu sein scheinen? Und die Ketolini weist darauf hin, dass in Oberitalien anfänglich solche Dinge auch geschehen sind. La... Mi pare che siamo, cioè, hai inteso bene quello che io avevo detto, cioè l'aristocrazia amalfitana ha un'origine militare e un fondamento agrario, quindi queste famiglie di comites continuano a mantenere questa loro posizione di primato nella società amalfitana, e il fatto strano è che essi non si dedicano ai commerci. Anche nella recensione al libro di Del Treppo è stato confermato, perché l'attività mercantile o la pretesa prosperità da mano, dico pretesa perché gli economisti non sono riusciti a valutare e non riusciranno a valutare fino a quando non saranno probabilmente, con qualche speranza, esplorati gli archivi del Cairo, della Geniza al Cairo, non si riesce a valutare così il volume di questi commerci. Comunque l'attività mercantile le praticavano questi mediocres, o addirittura gente ancora socialmente inferiore. La nobiltà quindi ha il suo fondamento di ricchezza nella proprietà terriera. Sarà questa la facciata anche dell'aristocrazia amalfitana, che costruisce un certo numero di ville sontuose nella costiera, non so, Villa Rufolo, eccetera, che poi attirarono così la condanna di Gioacchino da Fiore, diceva che questa nobiltà faceva questa vita. Quindi la nobiltà non si costituisce però nel senso di un ceto che costituisca, come hai detto, una oligarchia. Cioè, c'è un gruppo oligarchico che è quello delle famiglie dinastiche, in quanto ad Amalfi si producono e succedono due diverse dinastie. No, quindi nell'ambito di queste famiglie dinastiche si concentra il potere. Abbiamo anche, per esempio, gli arcivescovi appartengono a una famiglia, certi abati di certe abbazie, che sono numerosissime, appartengono a certi monasteri, appartengono a questo gruppo di famiglie dinastiche, che possono essere rappresentate come un gruppo oligarchico all'interno di questa classe di ex comites che costituisce l'aristocrazia amalfitana. La classe media costituisce invece costruisce quella fama di Amalfi sul mare. Però al momento attuale della ricerca, perché c'è anche, ti darò il volumetto del mio assistente, te lo darò oggi, che sta studiando i problemi, allo stato attuale della ricerca si fa strada la ipotesi che i mercanti di Amalfi siano di origine amalfitana, ma praticavano, come dicono gli economisti, praticavano il commercio per conto d'altro, un commercio di transito. Erano, no? i carrettieri del mare. Cioè, lo chiamano tipo di commercio di transito, cioè erano operatori sul mare o anche sulle piazze del Cairo, di Alessandria, di Costantinopoli, di Antiochia, di tutte queste città, per cui c'è un certo tipo di documentazione non ancora totalmente studiata, cioè di cui si avvia lo studio, ma non sa. Quindi in realtà la ricchezza di Amalfi e o meglio la fama di Amalfi Marinara è legata all'attività di questi amalfitani all'estero, cioè emigrati, operanti per conto d'altri. Mentre l'aristocrazia vive all'interno della costiera e vive di proprietà agraria, che poi molta non era. Io tengo sempre presente che il Medioevo è un mondo, insomma, in cui la ricchezza è molto esigua. Molto esigua, quindi è un'economia di sopravvivenza addirittura, ma insomma se l'economia della costiera è legata al vino, all'olio, alle castagne, niente grano, quindi è un'economia, ma comunque per Amalfi sul mare bisognerebbe tener conto di questa tesi che essi operavano in un commercio di transito. Questa è un'ipotesi. Chietolini ha fatto eine Oligarchie gibt, die sich noch unterscheidet von den führenden Schichten in Mare, von dem bisher die Rede war. Non avevano niente da scontare, non c'era un ambiente che potesse. Es gibt in Amalfi zwei Dynastien, die sich die einander folgen und die sich durchaus hervorheben in ihren Familienangehörigen von den übrigen Adligen. Die andere Frage aber, warum die Mediocres, die doch eigentlich den Wohlstand, das Ansehen der Stadt bewirkt haben, keinerlei Anteil an der Regierung haben. Es sind Forschungen oder Untersuchungen im Gange, die wahrscheinlich ergeben werden, soweit man bisher sagen kann, geht es in der Richtung, dass die Amalfitaner Seeleute, um es mal so auszudrücken, nicht Handel auf eigene Rechnung betrieben haben, sondern dass sie Seetransport als Geschäft betrieben haben und dass die nicht wenigen Amalfitaner, die im östlichen Teil in den Küstenstädten des, oder Hafenstädten des östlichen Teils des Mittelmeerraums bis Kairo hin gefunden werden, dass die an Ort und Stelle auch nicht als Händler, sondern als Makler, als Vermittler, als Agentur sozusagen tätig waren. Das Wichtige bei der Sache sei aber nun vor allen Dingen, diese Leute, die also für das Ansehen der Stadt so wichtig sind, die sind nicht zu Hause und können infolgedessen auch nicht an der Stadtverwaltung unterstützen.